Comunque voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La Zanzara. Passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere. Chiamate la polizia a cavallo, caro Parenzo. Prendete le transenne, piazzatele lì di fronte al Teatro San Babile di Milano, perché il 25 novembre, segnatevi questa data, il 25 novembre alle ore 11, alle 11 di mattina, l'ex direttore del TG4 Emilio Fede ufficializza la nascita del movimento Vogliamo Vivere. Come non hai fatto mai. Si presenterà alle prossime elezioni politiche, dice, l'obiettivo è l'apparentamento col PDL. Dice Fede, panico. Ne ho parlato con Berlusconi, no. E l'ex premier gli ha detto, è una buona idea. Benvenuti alla Zanzara, in collegamento dagli studi di Roma, David Parenzo, io sono sempre qui a buonasera. Milano. Buonasera. Ma buonasera, cosa che hai? La voce. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Buonasera. È bello stare qui in questo studio da solo, come un re negli studi della Confindustria che abbiamo occupato, caro Squinzi. Ora arriveranno compagne e compagni, lavoratori e precari e lavoratrici a parlare dei diritti di lavoro di articolo 18. Siamo qui, vi aspettiamo. D'Alema, mi candido se il partito me lo chiede. Ma guardi, la mia disposizione è a non candidarmi, quindi semmai posso candidarmi se il partito mi chiede di farlo. E chi glielo deve chiedere? Bersani, le direzioni, i comitati, le assemblee? Sì, Bersani sì. Oggi risponde, non chiedo a nessuno di candidarsi, applico le regole, dunque se vuole perfido. Fa la domanda ufficiale. Beh. Per la deroga, poi vediamo Bersani. Io non chiedo a nessuno di candidarsi, io non sono quello che nomina i deputati, perché ne puoi azzeccarne uno e sbagliarne 15, non esiste, non vogliamo più un porcello, non esiste, sono uno segretario del PD che farà applicare la regola, che ha fatto più di 15 anni. Vabbè, insomma, l'ha scaricato, diciamo la realtà, l'ha scaricato, certo. Anche se poi D'Alema dice non è vero che mi ha scaricato, fa applicare le regole. Insomma, se vuole D'Alema che cosa deve fare? Come un deputato qualsiasi che abbia più di 15 anni, non come un ex presidente del Consiglio, presentare una domanda di deroga, grande umiliazione. Carlo Verdone, detesto il 70% dei politici. E sul sito di Verdone c'è scritto... Detesto il 70% dei politici attuali. Sì, il 70% dei politici secondo me non è assolutamente adatto. No, mi fa specie che hai salvato il 30. Vabbè, questo è populismo allo stato puro, diciamola tutta. Populismo allo stato puro. È un cittadino come gli altri. Ma non l'ho capito, perché se lo può dire qualcun altro va bene, lo dice il grande Verdone, il populismo, non capisco. Ma è populismo allo stato puro, che significa il 70%? Una cosa ridicola. Disprezza buona parte di questa classe che si chiama dirigente, perché la classe dirigente dovrebbe dirigere. Qui non dirigono proprio nulla se non il traffico. Alle volte. Senti Formigoni che dice che Maroni è un candidato irrituale, cioè non si deve candidare alla Regione Lombardia perché è stato lui. Perché è stato lui a far cadere la giunta, o comunque ha contribuito. Stai tranquillo, mi fai parlare. Nuova indagine. Ritengo un tantino irrituale che il capo del partito, che dicendo che la giunta ha governato bene, interrompe l'esperienza della giunta, poi possa pretendere di essere il candidato di tutti. Grazie Gran confusione anche lì, non si capisce quando si vota, se la Lega entra in giunta. Prima dicevano di no, adesso pare che vogliono entrare con una persona. Vabbè, la solita roba, insomma. Rissa a proposito tra Salvini e alcuni ospiti all'Aria che tira sulla 7. Iniziamo con Rizzo, Rizzo quello della casta, Corriere della Sera, versus Salvini, sentiamo. Ma se Maroni è venuto a dirci che non c'era l'Ndrangheta in Lombardia, Maroni è venuto a dirci in televisione. Lei non si permetta di ripetere una cavolata del genere. Ma Maroni è venuto a dirlo. Lei non deve ripetere. Lei non può dire una fesseria del genere. Ma non la può dire lei questa fesseria. Lei è giornalista. Ma c'è la gente che non può prendere in giro i cittadini. Dell'Ndrangheta, per cortesia. Ripeta quello che ha detto Maroni, ha detto che l'Ndrangheta non c'è in Lombardia, vero? Io ho sentito. Dove? Quando? Dove? Ma c'è stato il caso di Saviano, ma non ce lo ricordiamo più. Allora. E poi un assessore siciliano russo, assessore alla sanità, che con Salvini imbastisce, inizia una vera e propria rissa, sentiamo. Con le stupidaggini che dice la Lega, fino a ieri Salvini parlava male della sanità siciliana senza conoscere le cose di cui parlava. Ma questo da dove esce? No, però l'ho visto ieri a Quinto Potere. Ma questo da che albero scende questo? Come? Allora, è Massimo Russo, Salvini, però non offendiamo le persone. È Massimo Russo, è l'assessore alla sanità della regione Sicilia. Appunto, con i problemi che hanno gli ospedali in Sicilia. Ma non dica stupidaggini, no, ho l'impressione che la sanità abbia più problemi con D'Accordo. Va bene la sanità degli scandali lombardi, è vero. Ma da che albero scendi a un certo punto, avete sentito Salvini, no? Dunque una scimmia che scende da un albero, un animale, una cosa di questo tipo. Questa era l'immagine, ancora Russo contro Salvini, razzismo da strapazzo. Quanti si vergogni lei. Sì, guardi, io vado con in giro a testa alta. Razzismo da strapazzo che ha distrutto l'Italia. Allora, purtroppo ci vergogniamo un po' tutti. E poi a un certo punto se ne va. Devo essere qua a sentirmi dare del razzista e del mafioso. Vi ringrazio. Grazie, Bonino. E vi saluto. Vi ringrazio e vi saluto. Ma come si saluta? Nulla. E del mafioso lo date a qualcun altro. Ma nessuno ha dato del mafioso. E siamo qui, innanzitutto festeggiamo i 30 anni del mitico Vernacoliere con Mario Cardinali, il direttore. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera ragazzi. Come stai? Come stai? Un ragazzi, vero? Allora, Renzi Bersani, dici qualcosa su Renzi Bersani, subito, un titoletto, una... È sull'ultimo numero del Vernacoliere uscito, Renzi Bersani, sfida epocale nel PD, Pipiritto contro Palle Mosce. E la base, ma tanto il bue è sempre il nostro, sono i famosi compagni del cazzo, no? Ma scusa, spiegamelo, chi è Pipiritto? Scusa, Pipiritto, chi è? Pipiritto, ma sei giovane, Pipi, sai che cos'è il Pipi? È quell'appellativo familiare che a Livorno si dà, in Toscana si dà il al membro maschile, sì, Pipino, sì. In genere si dice dei bimbi. E allora Pipiritto chi sarebbe, Renzi? Beh, ora Bersani a Pipiritto non ce lo vedo. No, e Palle Mosce? Palle Mosce chi sarà? Insomma, Renzi Bersani, se Renzi no, Pipiritto, certo, Palle Mosce. È trasferito sul piano fisiologico quello che insomma... E la base che dice? Eh? Ma la base che dice? E la base dice tanto il buco è sempre il nostro. Cioè, il ho capito, il buco è sempre nostro. Ce lo mettono sempre dietro, no? Questo è il punto. Certo, bravo, sì, e beh, insomma, è l'altra... Vabbè, bisogna spiegare, non addetti ai lavori. Perché scusami. Sei morboso. Cardinali, 30 anni, in questo modo li festeggio i 30 anni al Vernacoliere, 18 e 42, 800 24, 00 24, Cardinali, fermo lì, è con noi Antonio Mazzocchi, PDL, questore della Camera, buonasera. Buonasera a voi, soprattutto congratulazioni per la vostra trasmissione, che è una satira trasversale. Meno male, va. Adesso... Ha parcheggiato la macchina oggi, Mazzocchi? È venuto con la macchina alla Camera o no? Oggi sono venuto a piedi, perché ho la fortuna di abitare molto vicino alla Camera dei Deputati. Beh, un bel appartamento al centro, dunque, no? No, al centro no, perché a Prati, vabbè, un quartiere. Beh, siamo attorno ai 1.800. È un quartiere però buono, diciamo, un quartiere buono. Buon quartiere. Che casa ha lei, scusi, Mazzocchi, se mi faccio gli affari suoi? 1.500 al mese? No, una casa privata. Di proprietà? Di proprietà, perché quando facevo l'avvocato e guadagnavo molto di più di quanto guadagno adesso come parlamentare, l'ho acquistata con un mutuo. Ma perché uno ripete sempre che quando... guardi, non me la sto prendendo con lei, però è sempre un mantra, fermi un attimo. Ha ragione lei. Però cioè, quando facevo l'avvocato guadagno di più, perché uno ripete sempre la stessa cosa? Perché io faccio questa affermazione. E perché? Io sono l'unico di 630 deputati, di oltre 150 avvocati, che appena eletto eletto nel 1994. Ha smesso di fare l'avvocato. Mi sono cancellato dall'ordine. Ecco, ma quanto, scusi, ma chi gliel'ha fatto fare di guadagnare di meno? Perché la politica è anche una passione. Ah, la passione, tenga certo. Tenga presente, che lei chissà quante belle donne corteggia. Perché le corteggia? Per passione, sicuramente. Vabbè, ho capito, no? Però l'alternativa non è... È un po' diverso. È un po' diverso. Però scusi, no, Mazzocchi, ma questo... Ma diciamo chiaramente... No, ma io non voglio dire che lei... La passione politica è qualcosa che si ha... Guardi che un vecchio politico come Andreotti diceva che la politica sia nel sangue. È una specie di virus che quando ti entra nel sangue... Io d'altra parte c'avevo i calzoni corti quando ho cominciato. Cioè, lei è entrata nel sangue la politica quando? A che età? Guardi, io le posso dire che ho fatto il consigliere circoscrizionale che avevo 28 anni, 27 anni. Beh, è un po' tardino allora, comunque. Scusi, ma per fare un esempio, quando faceva l'avvocato, quanto guadagnava rispetto a quando fa il deputato? Sì. Ma guardi, se consideriamo gli euro di adesso, io guadagnavo sui 25.000 euro minimo. Minimo. Al mese. Dunque, proprio praticamente guadagna... D'altra parte basta andare a guardare le denunce dei redditi di quel periodo. La metà. Guadagna praticamente la metà, questa è la sostanza. Sì, ma guardi, io le dico, guadagniamo la metà e per me io direi che ogni deputato dovrebbe guadagnare la metà dei 13.000 euro. Vabbè, adesso questo lo dicono tutti, naturalmente. No, ma con i servizi che poi vengono pagati come negli altri stati da parte del Cardinali, che dice? Perché tutti i politici ripetono questo? Quando facevo la vita privata, comunque quando non ero politico guadagnavo di più, eccetera. È un situazione molto semplice. Semplicemente perché loro hanno la passione della politica, no? Insomma, ci dimentichiamo che questa gente ci va per passione, ragazzi. Ma chi glielo farebbe fare se no di guadagnare poco, di essere così maltrattati, di essere reputati una mafia, una casta? Insomma, anche loro hanno la loro dignità. È passione, lo fanno per noi, per il popolo. Lei senza questi politici non cambia. Sovrano, ce lo dicono tutti i giorni, no? Senza il popolo come sarebbe a buttarlo in cuffia al popolo, insomma? Buttarlo in cuffia? In cuffia? In cuffia. Eccoci qui, tra l'altro, per ribadire la sua vicinanza al mondo operaio. Oggi Parenzo ha fatto colazione insieme a personaggi illustri al centro di Roma. Ma lasciamo perdere, ne parleremo dopo. Appunto, ne parleremo dopo. Pubblico. Comunque voglio chiedere solo al volo a Cardinali, che c'è una pagina del Vernacoliere strepitosa su Monti, che vuole mettere una tassa sulle teste. Adesso magari lui ce l'ha meglio presente. Cardinali? Sì. Il titolo che hai fatto su Monti alla ricerca di quattrini, me lo ricordi un attimo? Ne abbiamo fatti tanti. Monti alla ricerca di quattrini, tassa sulle teste di Azzo, ma la Lega non vuole pagare. Sulle teste di Azzo, su quelle vecchie però, perché poi ora arrivano le teste di Azzo giovani e sarà tutta una gara. Allora, Mazzocchi, quanti soldi avete stanziato per rifare i parcheggi della Camera? No, allora non è che per rifare i parcheggi. Allora, per sistemare la questione parcheggi, così. È una previsione di bilancio triennale. Oltre 5 milioni, no? Circa 5 milioni. Il problema però, questa previsione di bilancio è una previsione che quasi sempre non si raggiunge, per cui i soldi vanno in economia. Oppure vengono stanziati più soldi, qualche volta succede anche questo. Spiego subito. Tenga presente che... Però scusi, uno dice subito, mi scusi Mazzocchi, poi io capisco tutte le cose, la questione in questo momento difficoltosa di chi deve andare in Parlamento e parcheggiare, che è un problema per un parlamentare, immagino, no? Portare la macchina e parcheggiare in questo momento, Mazzocchi, giusto? Tenga presente che chi usufruisce di questi parcheggi sono in tutto 135 deputati e 20 giornalisti. Ma in questo momento è complicato per un deputato parcheggiare alla Camera, è un problema oggettivamente. Perché prende tantissime contravvenzioni. Prende tante contravvenzioni. Ma un lavoratore normale che aspetta deve andare... un attimo, la risposta è questa. Perché io non sto difendendo nessuno. Perché uno deve stanziare 5 milioni e 600 mila euro in 3 anni per rifare i parcheggi a favore di deputati e senatori? Ma non sono i parcheggi per il personale, quello che è. Se lei me lo consente, sono parcheggi soprattutto per il personale della Camera che tiene e che ha degli orari oltre la mezzanotte. Noi abbiamo degli autisti che vanno a casa a mezzanotte e mezza. Sì, ma oltre 5 milioni sono un sacco di soldi, Mazzocchi, lo capisco. Ma guardi, io continuo a dirle, noi dobbiamo stipendiare 5 operai che sono stati licenziati dall'ACI e stanno a via della missione e rientrano in questa somma. dobbiamo fare in modo che i diversamente abili ne abbiamo sia come parlamentari che come... Perché non, perché non andate al Parlamento? Lei ci va in bicicletta, con i mezzi pubblici? Io mi auguro, non soltanto, tenga presente che mano a mano il fatto stesso che stanno aumentando tutti i motocicli, significa che la gente non viene più in macchina, anche perché prende ogni giorno 80 euro, 40 di multa, non credo che è un contravvenzione. Ma siete lavoratori normali? Perché, cioè, le multe perché si prendono, ma guardi, tutti le prendiamo. Ha perfettamente ragione, ma mentre io e lei parliamo, in questo momento circa 400.000 autovetture di pubblici dipendenti stanno ritornando a casa. Allora il problema qual è? È un problema culturale, se lei mi Ma è vero che le multe, è vero che i vigili vi avvisano prima di fare le multe? Guardi, questa è una cattiva interpretazione del giornale Il Messaggero che mi auguro che domani porta la smentita. I vigili fanno il loro dovere dicendo se io puta caso parcheggio in una zona vietata, mi si avvicinano e dicono guardi onorevole, lei non può parcheggiare altrimenti la contravvenzione. Oppure chiamano su alla camera e dicono guarda... Ma questa è una fesseria, mi consenta, mi scusi l'espressione, ma... Scusi, c'è un virgolettato suo qua, c'è un suo virgolettato. Lo so, ma infatti ho chiesto al giornalista di domani sul Messaggero identificare... Spesso e volentieri, prima di fare la multa, ti chiamano e ti dicono di spostare la macchina. È una bugia. Anche perché le stavo dicendo, facevo l'avvocato, ma mi ricordo sempre la legge. In questo caso sarebbe un abuso d'atto d'ufficio che farebbe il vigile. Cioè, un po' vi favoriscono, diciamo la verità, un po' vi favoriscono. Ma guardi, voglio dire, se lei domani mattina viene qui e domanda al capo dei vigili quante contravvenzioni sono state fatte oggi, le dirò che le dirà minimo 100-150 contravvenzioni. Scusi, dunque, i deputati si può dire che sono tartassati dalle multe? Ma sono tutti tartassati. Vabbè, anche i deputati. In particolare deputati. Scusi un attimo, ma lei dice che i mezzi a Roma non funzionano. Ma è curiosa questa cosa. Guardi, voglio dire che dopo mezzanotte i mezzi a Roma... No, lei ha detto che non lasciamo perdere dopo mezzanotte. I mezzi a Roma non funzionano tanto, sì, lo ribadisco. Forse dovrebbero funzionare meglio. Ho capito, però il problema è che, voglio dire, i cittadini normali quando vanno al lavoro... Sì, questo ha ragione che non funziona. Cioè, non sono in ottimo stato. Lei la metropolitana l'ha mai presa, ad esempio? Io la prendo spesso, ma tenga presente a mia figlia la sera dopo le 8:30, 9:00 gliela sconsiglio. E in che condizioni è la metropolitana di Roma? Lo dica lei, in che condizioni è, secondo lei, onorevole Mazzocchi? Lo dica non lei. È in buone condizioni. Per me, no? Lo dica al suo sindaco, che dica, il sindaco di centrodestra. Ma io guardi, ma io non... Il fatto stesso che le dico che i mezzi non funzionano bene, e so bene che i mezzi dipendono... Però scusi, ma perché bisogna fare un parcheggio per la Camera? Io toglierei tutto, cioè togliere tutto. Uno viene al lavoro con i mezzi, oppure se vuole affrontare il viaggio al centro, trova parcheggio dove trova parcheggio. Qual è il problema? Ma sono d'accordo con lei. No, avete messo oltre 5 milioni in 3 anni. Gli ho spiegato il motivo. Gli ho spiegato sì, per i dipendenti, d'accordo, però... Per i dipendenti... Poi gli ho già spiegato che è una previsione di bilancio che sicuramente non si raggiungerà, anche perché con lo spending review dobbiamo risparmiare e dobbiamo. Io poi sono convinto. Quante multe ha preso lei? Io pochissime, perché vengo quasi sempre a piedi. Ma perché i vigili se la prendono anche con voi apposta? In qualche modo? No, ogni tanto qualche deputato magari entra nel mirino, sono contenti di fare qualche multa a un deputato. No, non credo, guardi, i vigili, per quale motivo? I vigili e che ne so? Le loro versioni, anche perché spesso i polizia non sanno manco che uno è deputato. È giusto tagliare i fondi ai partiti per il terremoto, secondo lei? Per dare io abolirei i fondi ai partiti. Penso. Addirittura? Io farei quando lo dice lei, Mazzocchi? Da poco lo dice? No, io da tanto lo dico, nel mio partito lo sanno, io metterei il 5 per 1000 per coloro che vogliono... Lei è molto ricco però, Mazzocchi, mi sa che è una dichiarazione di reddito... No, ma per quale motivo? 5 per 1000, guardi, non è molto ricco. Perché no, lei, dico, è ricco, ma mica è uno scandalo essere ricchi, No, beh, anzi, io dico sempre che se il capitalismo aiuta gli operai, viva il capitalismo, però deve aiutare gli operai. Faccia una chiosa, No, io mi ricordo la famosa frase "c'hanno la ghigna come il culo", no? Cioè? E mi ricordo una volta ho scritto "il culo protesta, non vuole essere paragonato a certe ghigne", insomma. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Siamo qui, sempre più dettagli sulla candidatura di Emilio Fede con Vogliamo Vivere le prossime elezioni politiche, caro Parenzo, la che presentazione dettagli? Ufficiale 25 novembre al Teatro San Babila a Milano. Che giorno è della settimana? Ma non lo so, che me ne frega, 25 novembre. Beh, se è sabato e domenica me ne fotto. Domenica. E allora domenica. Secondo te andiamo a passare... Beh, potremmo anche farlo però. Ma come no, certo, passare la presentazione la di Fede, certo, subito. Con Emilio Fede. Subito. voglio intercettare il pubblico che non mi vede più sul TG4, 1 milione di persone, per il quale io sono stato e sono un punto di riferimento. Berlusconi mi ha chiesto tante volte di candidarmi, ma io avevo preferito dare il mio contributo sul video. Il mio contributo sul video. Ora invece ho deciso di fare un movimento e candidarmi alle prossime elezioni politiche. Si è confrontato con l'ex premier? Sì, lo vedo e lo sento spesso. Non gli ho chiesto il permesso, ma gli ho detto cosa volevo fare e lui mi ha appoggiato. Come ha già spiegato lui, sta riflettendo. Credo non si candiderà alla guida del paese, ma sarà un grande leader dell'area moderata. Titoli del TG3, mentre Montezemolo dice i partiti non devono ricandidare l'80% degli eletti attuali. Non capisco questa cosa che Montezemolo detta le regole di quanti devono essere candidati e quanti no. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Formigoni, la legislatura è al termine, giunta tecnica, Maroni al Pirellone, non è possibile, la Lega noi in giunta per 6 mesi, contestazioni in aula, indagati per corruzione ai vertici della compagnia delle opere di Bergamo, nell'inchiesta già coinvolto l'ex assessore regionale del PDL, Nicola Cristiani. L'opposizione occupa a oltranza la regione Lazio chiedendo alla Polverini elezioni entro dicembre, Bondi nominato commissario alla sanità. Bersani, non chiedo a nessuno di ricandidarsi, non scelgo io i parlamentari, ci sono regole precise. D'Alema, decidere il partito, non il segretario. Sondaggio del TG3, il PD arriva al 29%, mentre il Movimento 5 Stelle sorpassa di 2 punti il PDL, la maggioranza approva la scelta di Veltroni. Sconti fiscali, il governo conferma i tagli da quest'anno, via tasse su pensioni di invalidità e stretta su assistenza ai disabili, Banca Italia verso la ripresa, critiche da squinzi. Dopo il terremoto gli emiliani sono stati più reattivi degli aquilani e polemica sulle parole del capo della protezione civile, Gabrielli. Quando la zanzarita tormenta la... Sempre lui protagonista, il grande, grandissimo dal punto di vista mediatico naturalmente, sto parlando di Francesco Barbato, deputato dell'Italia dei Valori, per modo di dire, insomma, deputato di se stesso. No, ci ha detto una stronzata. Sentiamo, sì, una stronzata, sentiamo. Formigone vuole ritornare in campo? Allora, i vari formigoni scopelliti io li farei ritornare in campo, ma in un campo di concentramento. Pequeña zanzarita. Beh, il passato di Barbato però ci ha abituato a cose di questo tipo. Per esempio da noi ha detto una cosa sulla Cina, in Cina gli tagliano le mani, una cosa di questo tipo. Ma mettiamo un'altra uscita. Intanto di Barbato. Intanto è arrivato qualcuno. Sì, sorpresa. Dopo adesso alle, no, alle 7:30 lo colleghiamo, via. Sei un ladro, sei un ladro, tu e tutti i politici come te che state nelle istituzioni solo per rubare e fare i cazzi vostri. Va bene, va bene. Ora, fermo Fiorito. Qui è con Fiorito, naturalmente. Sei un ladro, sei un ladro. Poi a calci nel culo tutti i politici del Lazio. Sentiamo. Qua, quella dell'IDV che ha votato, lei che gli farebbe in parte del partito? La butterebbe fuori? No, qualcosa in più. Un calcio in culo e via. Questa gente dalla politica. Perché questi sono dei ladri. La cosa più incredibile che avete letto in queste ore o che state sentendo in queste ore sulla Lombardia, sul Lazio, è che in Italia, per mille motivi, non è nemmeno semplice sciogliere un consiglio regionale. Cioè, la cosa pazzesca è questa. Ci sono presidenti praticamente dimissionari, sia la Polverini che Formigoni. Perché non se ne vanno? Cioè, perché non si fanno elezioni il più presto possibile? Invece ci sono mille impicci burocratici, politici, non si sa bene quando ci saranno le elezioni, forse a dicembre, forse a marzo, aprile. Cioè, in Italia non è nemmeno semplice chiudere un'esperienza e affrontare l'elezione, è tutto complicato. Leggo oggi su un quotidiano, La Repubblica, un altro stipendio per arrivare al Pirellone, rimborsi viaggio fino a oltre 21.000 euro. Cioè, c'è gente che prende dei rimborsi viaggio, non si capisce perché, nonostante lo stipendio cospicuo da consigliere regionale, che si prendono i rimborsi per i viaggi. Cioè, uno deve andare al lavoro e viene rimborsato. C'è gente che arriva a 21.000 euro l'anno, 21.000 euro l'anno, gente che viene da Mantova per andare a Milano, ma è così anche in altre regioni, per recarsi del posto di lavoro. Esattamente. Esattamente, tra l'altro c'è un tizio del Partito Democratico, un tale Girelli, il quale dice: io veramente spendo 400 euro al mese per i miei viaggi, però così, siccome c'è un forfè, siccome c'è una cifra fissa, ne prendo 1.600 e nessuno mi chiede niente. Cioè, lui ha in tasca 1.600, ma in realtà ne spende 400. Vado ai pazzi io per queste cose, vado ai pazzi. E se uno poi fa il car sharing, cioè montano in due o in tre su una macchina, il rimborso lo prendono uguale. Sì. Ma questa è un'altra cosa, adesso vai in questo dettaglio. Quindi inutile. Si organizzano per fare Fabrizio da Milano. Il viaggettino. Fabrizio, capito? Da Milano. Buonasera. Dica. Niente, sono in onda. Sì. Fino a prova contraria, sì. Se lei parla ci fa una cortesia. Perfetto. Niente, volevo condividere un po' con voi questa mia impressione. Mi sembra che Berlusconi, dando il via libera a Emilio Fede, praticamente gli abbia detto, cioè gli abbia posto anche la pistola per suicidarsi dal punto di vista ovviamente mediatico e politico. In che senso, scusi? No, vuol dire vai avanti pure tu, così almeno non prenderai nessun voto, farai una brutta figura, punto e basta. Io non credo che Berlusconi abbia dato il via libera a Emilio Fede, questo lo dice Emilio Fede. Cioè, fa una lista perché si vuole divertire il signor Fede, fa benissimo. Giovanni da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera, però divertirsi così mi sembra, dottor Cruciani. Ma ognuno può fare la lista che vuole, si può candidare dove vuole, perché adesso è impedito a Fede di fare un partito politico e di candidarsi alle elezioni. No, non esageriamo. Quello che sicuramente non lo voterà. E vabbè, ma nemmeno io lo voterò. Detto questo, poi è libero di fare quello che vuole. Perfetto. Senta, cosa ne pensa lei di Veltroni praticamente? Non crede che per l'Italia sia un problema che non c'è uno come Veltroni? Non penso proprio, guardi, nessuno è indispensabile, anche le persone più degne, più rispettabili, nessuno è indispensabile, nemmeno Monti, che ne qualcuno sostenga il contrario e che ne dica qualcuno sul fatto che Monti ci vuole solo Monti, nessuno è indispensabile. Niente, poi una cosa solo per mister Parenzo. Sì, che spero, fatto, che spero che la compri sta casa a Reggio Calabria, veramente mi fa piacere. Ma che è successo? Scusa, l'ho detto perché io farò querela a Scopelitti, a presidente della regione. Sì, vabbè, non voglio spiegare questa cosa, è una cosa complicatissima, me ne frego. Cioè, c'è una querela aperta tra Parenzo e il presidente. Se non chiedo scusa, lo querela. Ha detto che ho organizzato un collegamento imbeccato da Sandro Ruotolo. Vabbè, ha fatto la conferenza stampa oggi per dire questa cosa, che si occupasse di Reggio Calabria anziché occuparsi dei miei collegamenti. Grazie Giovanni. Cosimo da Torino, buonasera. Spero che la compri sta casa. Se vinco la causa la compro a Reggio Calabria, poi la invito. Cosimo da Torino. Sì, buonasera, ci sono Cruciani, mi senti? Dica, sì? Dica. Ecco, dica, un attimino perché mi voglio godere tutta la diretta, visto che siete veramente grandi. Buonasera anche a lei, Parenzo. Vabbè, un attimino, che deve fare per godersi la diretta? Parli. Allora, volevo dire che... Si deve sbracare, che deve fare? Non lo so. Mi devo sbracare perché la vostra è una trasmissione molto interessante e lascia parlare il popolo. Vabbè, vada, parli, ecco, prima che la taglio, prima che taglio la linea... No, mi tagli, perché è una cosa molto importante da dire. Io volevo parlare del buon Bersani, sì, che ha praticamente distrutto un settore che lui qual è? Qual è il settore? Il settore commerciale. Senta, non ci rompa le balle con queste stronzate, su, cioè no, Bersani che ha distrutto il settore commerciale, ma di che parliamo? Su, Cosimo! No, Cosimo! Una cosa, Cruciani, allora io vado ai pazzi, io 93 spesi 220 milioni. Ma non me ne frega nulla a me di quello che lei ha fatto nel 93, no. Cosimo, non me ne frega niente. No, lei deve capire che con la ma io non voglio capire. Viva le liberalizzazioni! No, perché ha indebolito una classe operaria. Vabbè. Che si è comprata la licenza per poter lavorare. Vabbè. E invece, non avendo la professionalità. Vabbè, Cosimo, ci deve ancora rompere le scatole con queste cose che riguardano Bersani del 93? Oppure vuole parlarci di qualche cosa? No, e poi vorrei anche parlare dell'anticostituzionalità degli stipendi che non si possono abbassare. Vabbè. Che è ridicolo, cioè è ridicolo. Dei stipendi di che cosa? Dei grandi manager, lei dice. No, bravissimo. Su quello lei ha ragione, su quello lei ha perfettamente ragione. Grazie Cosimo. Gigi da Padova, buonasera. Buonasera Cruciani, come vada, state? Vada. Bene? Come state? Ah, dite, io il discorso che facevate per quanto riguarda la giunta lombarda è che questi tirano avanti per prendere il vitalizio, punto a capo, sono veramente dei morti di fame. Guardi, pare che la questione del vitalizio non è così semplice come la raccontano. Ma no, al 21 li scatta. Ho capito, ma uno non è che può fare benissimo, cioè non è che al 21 li scatta. Comunque secondo me, guardi, il vitalizio ai consiglieri regionali andrebbe abolito tout court, per cui guarda, se lo prendono adesso, lo prendono dopo, non me ne frega niente. Andrebbe abolito anche quello retroattivo. Anche quello retroattivo andrebbe preso. Ma questi se lo pappano e tirano avanti per se lo papperà, se è previsto dalle norme se lo prenderanno, caro Gigi. Per quanto riguarda un'altra cosa, questi parlamentari che dicono che quando facevano la libera professione guadagnavano moltissimo. Lo so, è una grandissima cazzata. Le porto un esempio velocissimo. Il governatore del Veneto, il grande Galan, quando gli facevi la domanda di quanto guadagnava facendo il governatore, ti rispondeva sempre con fastidio, insomma, no? Bene, perché lui diceva che guadagnava. Era, guardi, io non ci credo quando dico, adesso lasciamo perdere l'esempio di Galan perché non abbiamo tempo e c'è la borsa, però io quando mi dicono guadagnavo di più prima facendo la libera professione, non ci credo, punto e basta. Io la combatto. Vabbè, la notizia di oggi, come sapete, dal punto di vista politico è certamente Bersani che dice D'Alema candidato, non gli chiederò di presentarsi, e D'Alema che risponde decide il partito, no lui. Dunque c'è una, non so se sia poi in realtà una muina, ma comunque c'è un contrasto tra Bersani e quello che a lungo è stato considerato il suo mentore, cioè D'Alema. In realtà Bersani è stato sempre uno fuori dai giochi. Per tanti anni è stato fuori dai giochi delle correnti prima del PDS, poi dei DS, eccetera eccetera. Riprende la zanzara però con un'altra notizia incredibile, caro Parenzo degli studi di Roma, dove già hai di fronte a te un nostro ospite, no, di fianco, un di ospite fianco, che si è spogliato nel frattempo. Io dico, vabbè, solo spogliato questo. Spero che abbia tenuto almeno una camicia, eccetera, si è un po' scoperto perché farà caldo in quegli studi di Roma, sì, come al solito. Però c'è un personaggio che non so se riconoscete da questa voce, ve lo faccio ascoltare, cari ascoltatori della zanzara, voi tantissimi che ci state seguendo, si vuole ricandidare ancora, ha annunciato pochi istanti fa un senatore del PDL, no, lascia perdere il PDL. Sentite, sentite. Uscirà dal PDL? Io spero di uscirne al più presto, insieme. Questa era una voce di marzo, io ho grande rispetto per i vecchi della politica, però il signor Pisano, Beppe Pisano, per carità, è stato ministro degli interni, è stato nella segreteria di Zaccagnini, ha vissuto tutte le geologiche della politica. Dal 72, il 72, sono passati 40 anni, credo, 40 anni esatti, 40 anni. Nel 72 c'era l'Unione Sovietica, naturalmente, ma eravamo ancora, l'Italia non aveva ancora vinto i mondiali in Spagna, non aveva partecipato ai mondiali in Germania, sto parlando solo di calcio, ma c'erano un sacco di cose anche dal punto di vista politico, ha vissuto l'epoca di Moro, basta uno. Invece dice, mi ricandido perché voglio il record di longevità politica. Anche quello è un in Guinness, Sardegna, no? C'è una famiglia che detiene il record della longevità in Italia e voi non volete permettere a un politico sardo di detenere un record della longevità politica? Ora o ci piglia per il culo o sta scherzando, no, oppure... Però ha coraggio, perché ci mette la faccia, scusa, ha coraggio. Beh, Libero titola subito, fermate quest'uomo, addirittura. Non mi pare un pericolo. Un ascoltatore, no, un pericolo no, però uno dovrebbe avere anche la forza di dire io non voglio più stare in Parlamento, su, si può fare altro, dopo sono in Parlamento dal 72, quasi ininterrottamente. Un ascoltatore poi l'ospite, Marco da Reggio Emilia, Marco. Dica. Allora, io volevo dire che secondo me D'Alema pur si è comportato abbastanza bene come ministro, quindi non capisco perché si dovrebbe dimettere. Come ministro di cosa le dice? Ministro degli ministro esteri? Ministro degli esteri. Vabbè, adesso questo... E quindi dico, dopo che sia vecchio e tutto, siamo d'accordo tutti, però non essendoci una legge in Parlamento che dice che uno non si può ricandidare, si è fatto per il legislatore... Ma questo sta al Partito Democratico decidere anche se... Per esempio, se ci fossero le preferenze, sì. Uno potrebbe anche candidarsi e vedere se ha consenso. I voti li ha? I voti sicuramente in alcune circoscrizioni li avrebbe, no? Li avrebbe anche parecchi. Comunque, secondo lei va ricandidato. Benissimo. 800 24 00 24, è con noi presente a fianco a Parenzo degli studi di Roma, uno degli esponenti di Punto di Futura Libertà. Non so se abbia ancora un incarico perché sono successe alcune cose. Italo Bocchino, buonasera. Ecco. Buonasera. Allora, gli applausi finti, dove li abbiamo? Applausi finti, adesso li mandiamo. Adesso Bocchino, voglio capire innanzitutto lei che ruolo ha in Futura Libertà, perché portavoce è stata designata. Ecco, gli applausi preventivi. Bocchino! Vabbè. A parte ho la solita lo stesso ruolo di prima dal giorno in cui è nato, cioè vicepresidente? Vicepresidente con il presidente che si è sospeso perché ha un incarico istituzionale. Scusi, dunque lei è il numero, si può dire che è il numero due di Futura Libertà? Perché qualcuno dice sì, il numero due col numero uno che si è sospeso. Dunque il numero uno, diciamo. No, sono il numero due col numero uno che però non esercita le funzioni previste dallo Statuto di Futura Libertà perché si è sospeso. È come il presidente della Zanzara. No, tu sei il numero uno, no, sono no, il numero due. No, uguale. No, quello è io sono in funzione, io sono in funzione, però è diversa la beh, cosa. La stava spingendo verso un'autosospensione. Bravo. Parenzo trattava per un'autosospensione. Però è come il presidente del Senato quando non c'è il presidente della Repubblica, diciamo. Esatto, è una supplenza, bravo. Vabbè, però bravo, lei è il numero, allora formalmente è il numero uno, diciamo, per temporaneamente finché Befino si dimette da presidente della Camera, è il numero uno di Futura solo Libertà. Dal notaio, la politica non è fatta di atti notarili, ma di autorevolezza, e quindi sono il numero 3000 in autorevolezza. Scusi un attimo, ma conta più lei o la Bongiorno? La Buongiorno conta più di me, ha fatto assolvere Andreotti e Sollecito. Anche Conte in parte. Anche Conte in parte. Però no, la Buongiorno portavoce è stato un bel colpo, lei che si occupa di comunicazione, dica la verità, è stata una mia idea, insomma, come sembra? Gli anti-juventini, una sua idea è stata? Certo, un'idea mia di Fini. Qualcuno dice che in realtà lei è molto arrabbiato perché nei cuori di Fini, nel cuore di Fini ormai c'è la Buongiorno, non più Bocchino. Queste sono le maledie, le voci che girano. Ho tanti cuori in cui vorrei essere, ma non in quello di Fini, diciamo. Beh, tanti cuori, uno ne avrà adesso. Mi, no? mi basta essere, diciamo, tra i suoi amici politici. Dunque non è in rotta con Fini, a parte non ci verrebbe a noi, no? Guardi, tra me e Fini c'è un rapporto come tra lei e il povero Parenzo. Perché povero? No, cioè, alti e bassi ci sono allora. Nel senso, ci sono alti e bassi, ma siamo condannati a sopportarci a vicenda come voi due. Beh, questa è buona, questa è buona. Scusi, qual è l'ultima volta che avete litigato, quando è stato? Noi recentemente, perché lui si è assentato per due giorni. Mai. Vabbè, come Fini, no, non abbiamo mai litigato. Non siete mai andati a fanculo proprio? Mai, ci siamo detti quello che pensavamo schiettamente. Vabbè, mai. Ho capito, ma discussioni forti ultimamente ce n'avete avute? Mai. No. Allora non siete come me e Parenzo. Cioè, No, siamo diversi. Dico, siamo come voi due, nel senso che siamo condannati a sopportarci a vicenda. Nel senso che l'uno non può fare a meno dell'altro. Però detto questo, noi, io e Fini, veramente non abbiamo mai avuto un litigio. La pensiamo diversamente. Su che cosa, per esempio? Vi faccio un esempio. Il giudizio su Cruciani. Vabbè, ma che c'entra adesso? Quello... Fini, che giudizio? Fini è un giudizio pessimo. Quello che Cruciani ha su Fini. Che si annulla, insomma. E quindi, ad esempio, ci divide il giudizio su Cruciani, perché io ho di Cruciani un giudizio straordinario e Fini no. Cioè, abbiamo delle cose che ci dividono. Tipo, ad esempio, lui beve le bollicine, a me piace il vino fermo. Vabbè. Lui beve la grappa, io non bevo superalcolici. C'è grandi questioni politiche, insomma. Vedo che... Lui mangia solo a cena, io mangio anche a pranzo. Sempre... Cioè, ci sono delle questioni che ci dividono. Politicamente non è riuscito nessuno a dividere. È sempre in grandissima forma Italo Bocchino. Voglio poi subito... c'è notizia, c'è subito una notizia sulla lista che sta costruendo. Che lista sta costruendo? Che lista? Ma pure un'altra lista, dire. Ma non basta Futura Libertà, un'altra lista ancora? No, un grande progetto. Stavamo parlando di cose serie di con cose serie. Parenzo, prima che intervenisse naturalmente lei, allora, prima delle cose serie parlavamo, so parlavamo di politica. Prima delle cose serie, siccome si parla di rottamazione, anche Fini, anche lei ha quattro legislature, mi sembra, Bocchino, se non sbaglio. Ma me le porto bene o no? Beh, è giovane, però comunque ha quattro legislature, cioè in un altro partito la metterebbero in discussione, Nel PD direbbero deve presentare una domanda per la deroga. Vabbè, ma lo statuto l'ho fatto io con libertà Cruciani, scusa. Sì. Appunto, dico Cruciani, Cruciani. Però Fini, diciamo, dall'83 mi meraviglia questa sua Fini dall'83 80 pure lui, cioè, sarebbe il caso di dire ma 83. Ma sa chi è che decide quanto tempo si può stare in Parlamento? No, nessuno. Gli elettori. Allora Fini, se ci sono le preferenze. Fini, no, attenzione, nel caso di Fini ci sono o non ci sono le preferenze, no? Cioè, Fini adesso si è messo a fare la pre-campagna elettorale, di fatto ha ripreso, perché prima era fermo nel ruolo istituzionale, adesso siamo pronti per le elezioni, ha cominciato ad andare in televisione, ha cominciato a girare l'Italia e noi nei sondaggi abbiamo aumentato di un punto percentuale. Significa che c'è un pezzo di italiani che vuole Fini. Vabbè, quindi Fini adesso si può candidare pure se è stato 30 anni in Parlamento. Beh, però non è un po' troppo 30 anni, cioè, a un certo punto dall'83 anche lui c'era, anche là Andropov. Ma mica è uno yogurt il parlamentare che scade, scusi, ma lei si farebbe operare da un chirurgo che dice no, ma questo, guardi, arriva nuovo perché quello che c'era prima stava da 18 anni qui. Beh, sei vecchio, gli è allora, vive vecchio. Ma sei vecchissimo, Fini, esatto, ha ragione. Ha ragione Parenzo. Anzianità parlamentare, non anzianità anagrafica. Quindi per lei questa idea della rottamazione è una stronzata. È una stronzata. No, l'idea della rottamazione, allora, è una stronzata. Innanzitutto è una stronzata il termine. Qui c'è un problema di ricambio che riguarda l'Italia. L'Italia è un paese per vecchi, un paese gerontocratico. Ho capito. Gerontofilo e gerontocratico. Allora? Piacciono le persone vecchie per tutti i ruoli. Cioè, lei Pisano, sta storia di Pisano, scusi. Ma Pisano dice: io mi candido, se gli elettori mi eleggono va bene, se ci sono le preferenze, Pisano magari viene a parlare. Ma dal 72. Ma dico: se si candida, ci sono le preferenze, magari lo votano. Però il problema è che negli altri paesi. All'età mia si è più o meno in pensione quasi politicamente. Ho capito, appunto. A maggior ragione, Fini dall'83. Ma vale in altri paesi. Ma vale nell'università, nell'impresa. Vale. Scusi, però, Bocchino, se uno ha fatto 30 anni in Parlamento come Fini, 30 anni di Parlamento, c'era il movimento sociale. Per Cruciani, carità. Ci vuole il ricambio. Ci vuole il ricambio. Appunto, uno dovrebbe dire: dopo 30 anni, lei con i suoi sermoni. Ma che c'entri i sermoni? Ma non lei con i suoi sermoni, lo devono fare gli elettori. I sermoni. Si mettano le preferenze. Dopodiché, se Bocchino prende le preferenze, fa il deputato. Se non le prende, è rotto. rottamato. Ma vabbè, almeno rottamano. Ma io direttori. Sto dicendo no, l'idea. Ma... questo va benissimo. Allora, io voglio capire una cosa: 30 anni di Parlamento per figli non sono troppi, dice lei, perché conta l'età anagrafica e perché gli italiani lo vogliono. Questo no, è... no, guardi, attenzione, io ho detto un'altra cosa. Conta il giudizio del popolo, degli elettori. Quindi dobbiamo mettere un sistema elettorale come le preferenze che permettono a Pisano di candidarsi e se c'è i voti viene eletto, se non c'è i voti non viene eletto. Perché scusate, io vi faccio qualche nome, Cruciani, vi faccio quattro nomi. Sì, sì. Almirante Berlinguer, Napoletano, Pannella. Sono stati eletti con le preferenze tantissime volte, tantissimi decenni in Parlamento, gente onesta, gente di grandissima qualità, grande servizio delle istituzioni. E poi, come disse Fanfani a un congresso di CIA, un giovane Fanfani. Che parlava tipo Renzi, disse guarda che si può essere bischeri pure a 20 anni. E quindi... era un'altra era. Non è un problema, vabbè. Dobbiamo mettere le preferenze, poi scelgano gli elettori. Se ritengono che siamo bene pure Pisano in quel caso, ci rottamano. Se Pisano piace... se Pisano a voti... ma se piace gli elettori è il mercato che decide. C'è gente che ascolta la Zanzara su Radio 24 e oggi lo sta dicendo come se fosse una porcheria, scusi. Ma no sto dicendo proprio perché c'è persino qualcuno perché, che ascolta perché Cruciani e Parenzo hanno audience e quindi tutti li vogliono. Ma lei lo sa che vogliono dare Lambrogino a Sallusti, quello che lei ha detto che è un pregiudicato a Milano, Lambrogino d'oro? Ma perché vi spaventate tanto? Il pregiudicato in qualsiasi manuale dispregiativo su in qualsiasi manuale di diritto penale e di procedura penale è colui che è stato già giudicato con sentenza definitiva. Ho capito, ma lei lo diceva in senso così, è un pregiudicato. No, è un pregiudicato. Ma con disprezzo lo diceva. È un pregiudicato che lavora per Berlusconi. Ma non legge mai. È un pregiudicato di nuovo, ribadisce, tu pregiudicato che lavora tutti i giornali. Lei dice un pregiudicato lavora per Berlusconi proprio in termini proprio, è un pregiudicato che lavora con Berlusconi, non è un dato di... Mi dica se ho detto una cosa scorretta. Ho capito, però c'è modo e modo. Ma se finisce in galera, se le fa piacere? Lo va a trovare? Non mi fa piacere e non lo vado a trovare. Ma neanche a trovare. Scusi un attimo, però ci sta un po' marciando su questa storia, perché io sono convinto un po' di sì alla fine. Ci sta un po' marciando dal punto di vista mediatico. No, non mi fa piacere. Non mi fa no, piacere. Ci sta marciando dal punto di vista mediatico su questa storia Sallusti? Del carcere. Ma un pochino sì. Però prima ci marciava pensando che finisse bene. Adesso ho l'impressione che ci marcia meno perché ha capito che rischia di finire male. Comunque io voglio che sia libero perché ho un'udienza civile a breve, quindi dato che conto di avere dei soldi quanto da Sallusti. Quanto gli ha chiesto? No, decide il giudice. Io non metto mai le cifre, dico quanto per la casa di Montecatini, per la solita vicina no, per una serie di articoli, altre cose. Perché 4.000 euro adesso me li deve versare Capezzone. Addirittura. Daniele Capezzone, che fine ha fatto? Vi invito Capezzone? A cena. Non lo so che fine ha fatto, però. Mi... 4.000 euro che era cioè, ha vinto 4.000 euro da Capezzone? No, una cena, 100 euro e vi invito a cena. Ah, ok. 3.900 euro ci pago gli avvocati. Ad Assunta Madre, là dove va sempre lei, dove la vedono ogni tanto con qualche giovincella. Vabbè, lasciamo perdere. Va. Guardi, l'ultima volta che sono andato a cena in un posto cool ero con lei e Parenzo. Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Una delle frasi mitiche di Italo Bocchino alla Zanzara, non mi ricordo nemmeno a cosa si riferiva. 800 24 00 24, è con noi negli studi di Roma, io sono a Milano, Parenzo è a Roma accanto a lui, abbiamo tentato questa sera un esperimento pazzesco. Pazzesco, cioè, normale, abbastanza. Abbiamo messo in regia il portavoce di Bocchino che ci sta aiutando nel mixer. Sì. Allora io voglio capire una cosa. Ora dunque, metterà tutti i discorsi lei è di Bocchino contento, dal, è dal contento. 94 a oggi. Adesso rimixa. È contento, è contento che non finisce in carcere perché in realtà si aspetta dei soldi da Sallusti, questa è la sostanza o no? Beh certo, ho fatto una causa civile, adesso c'ho in fila Sallusti e anche altri. Bel Pietro sicuramente, no? Un altro. Beh, ci abbiamo 4-5 cause. A proposito, ma Libero dice che Fini vuole fare una specie di ossessione con Fini, o comunque sono molto concentrati su Fini. Dice che si vuole fare una televisione, dunque ha dato un appalto. Adesso non ho letto oggi una cosa. Aspetta, che cos'è questa cosa della televisione? Vabbè, l'appalto che la Camera fa ogni anno per la gestione della comunicazione. Ma che hanno con Fini? Un'ossessione, cos'è? Beh, hanno un'ossessione innanzitutto, forse perché gli ha portato l'editore in Parlamento, e perché candidò il loro editore. Angelucci. E poi perché, sai, loro campano sulla... Ma come? Scusi, non ho capito, ce l'hanno con... In realtà non dovrebbero avercela questa, per questo non motivo. Non lo so, forse, di solito, si chiama sindrome rancorosa del beneficato. Cioè? È una, negli studi di psicopatologia, che, sì, psicopatologia, che io prima di venire alla prima puntata, che fui ospite a Zanzara, feci per capire bene come comportarmi qui da voi... Sì. E c'è questa sindrome che la invito a studiarla, si chiama sindrome rancorosa del beneficato, cioè la persona che ha avuto un beneficio, cioè ad un certo punto si convince che ne aveva diritto e nello stesso tempo si trova a disagio perché sa invece che ti deve ringraziare, quindi diciamo matura un rancore che porta a questa sindrome. Perché Angelucci fu candidato da Fini? E credo proprio di sì. Aggiunge, no, ma alla fine poi me lo ricordo del PDL, diciamo. E poi alla fine si è presa come è lui che dà, come dire, lui che manovra. No, non credo, credo il tu. Puparo, no, credo tutto il giornale. Il Puparo è sempre uno solo, ce n'è uno solo di Puparo. Berlusconi. E beh, chi è? Il pure con Belpietro. Pure con Belpietro. Guardi, Libero il giornale. No, la stessa sono cosa. I ventriloqui della pancia di Berlusconi. Adesso leggiamo tutti i giorni che, che Alfano a Palazzo Grazioli si lamenta di come viene trattato da questi giornali. Sì. È bello perché Berlusconi, tutti questi, io ci sono passato perché il giornale l'ha fatto con me, l'ha fatto con Fini, l'ha fatto con altri, il metodo boffo. Berlusconi dice sempre: ma io non li controllo, ma io non li controllo. Non è vero, non dice, mi non è vero. No, Berlusconi sa tutto il giorno prima. Sa tutto il giorno prima. Ah, proprio le pagine prima che vadano. Ma non so se le danno le pagine, gli raccontano. Comunque meritano di essere portati in tribunale sulla questione da Fini. Insomma, hanno querelato tutti, mezza redazione, pure Fini. Cioè... Vabbè, ma è giusto, scusi, ma la libertà di stampa è un principio sacrosanto. Ma dunque la galera ci vuole in alcuni è casi. È bellissimo, nel momento in cui si sconfina, se ne deve occupare un magistrato. Ma la galera ci vuole in alcuni casi? No. Ma guardi, io tendo a fare delle denunce civili perché sinceramente sono giornalista professionista e quindi vedere un collega che deve andare in galera perché però, mi ha diffamato mi dà in fastidio. Alcuni casi l'ho fatto una volta sola contro Bondi, l'ex ministro Bondi, che adesso è indagato e poi si dovrà esprimere il Senato se c'è l'autorizzazione a procedere. Però non è uno scandalo la galera per in alcuni casi? No, per i reati d'opinione non bisogna mai andare in galera. No, ma se uno scrive delle stronzate... Se invece, no, se uno scrive deve pagare. Delle inesattezze deve pagare. Se uno invece fa una campagna tipo il metodo boffo... Esatto. In galera. Cioè, voglio dire che, nel senso che rovina la vita di una persona... Esatto. Voglio dire... Lì c'è la galera. No, c'è scritto, c'è scritto. Dunque, lei è d'accordo. Dunque, per alcuni giorni... Guarda che per Sallusti, per evitare la galera, bastava scrivere una rettifica, che non l'ha voluta fare. Dunque, se la merita la galera da un certo punto di vista? No, non se la merita. Se l'è cercata, ma lei sta dicendo un po' che se l'è cercata. Non se la merita la galera. Però scusi un attimo, ha fatto campagna... di tutto per far applicare una legge che difficilmente viene applicata. La campagna, lei dice la campagna, no. Nel caso di Libero c'è un giornale che sta facendo una campagna su Fini, in quel caso... Ma infatti gli costerà cara dal punto di vista economico. Vabbè, quello lo vedremo naturalmente, ma alcuni meritano la galera se rovinano la vita di una persona, in questo caso Fini? Si meriterebbe la galera, Belpietro? Guardi, nel caso in cui si attacca persone come noi, che siamo personaggi pubblici, è impossibile dire che meritino la galera. Meritano però non sarebbe uno scandalo, severe, diciamo. Delle severe sanzioni civili e delle severe sanzioni da parte dell'ordine dei giornalisti. Se uno invece distrugge un povero Cristo, beh, insomma, che ci siano delle pene anche detentive, il codice lo prevede proprio perché tu non puoi permetterti di distruggere un povero Cristo. 800-24-00-24, i sondaggi vanno maluccio, Bocchino. Ne parlavamo proprio vanno maluccio. Vanno meglio di un mese fa. 2,9. Ma domanda, chi è che vi riporta in Parlamento? Lei chi è che la riporta in Parlamento? Faranno una lista unica, questa è la notizia. Guardi, l'audience della radio per cui voi lavorate non è che un audience che si discosta molto da questi numeri. Però è una radio figa, è una radio che ha Confindustria come editore. È una radio che ha voi come punti di diamante. Quindi voglio dire, non faccia il paravento. La forza è quella poi di saper crescere poi, pian piano. Ma chi vi porta in Parlamento? Come arrivate in Parlamento? Qual è il progetto per arrivare in Parlamento? Perché... Se ci portano gli elettori, bene. Sì, ma come? Io vado a lavorare. La lista unica. Faccio una trasmissione radiofonica in contemporanea alla vostra. Vogliono fare una lista unica. Non so se Bocchino lo può confermare. Una lista unica dove c'è dentro FLI, il nostro l'UDC obiettivo... e Montezemolo. Questo è l'obiettivo. Il nostro obiettivo è far sì che nasca una lista per l'Italia che in campagna elettorale spiega agli italiani che votando per il PDL si trovano Berlusconi presidente del Consiglio, e abbiamo già visto come va a finire. Votando PD si trovano Bersani presidente del Consiglio con Vendola che parla contro l'Europa e a Bruxelles non ci fanno nemmeno più entrare. Invece votando questa lista per l'Italia, che può comprendere tutti coloro che... Chi fa parte di questa lista per l'Italia? Tutti quelli che politici tipo DC e FLI o di società civile auspichiamo, da Italia Futura, ad altri soggetti, Giannino pure, tutti coloro che si ritengono alternativi a PD e PDL, che vogliono costruire questo contenitore che può dire agli italiani: guardate che votando noi evitate che ci siano quegli altri a Palazzo Chigi, ma a quel punto noi al Presidente della Repubblica, essendo determinanti, diremo è opportuno che si prosegua con Monti. Scusi bis. Un attimo, al di là di Monti bis, ma io voglio dire, Montezemolo ha già detto che l'80% dei politici non si devono ricandidare, che sia chiaro, lei è d'accordo con questo o no? L'80% dei politici attuali ha detto che non si devono ricandidare. Montezemolo rappresenta un segmento di società civile che vuole... Ma lei è d'accordo o no con questa cosa? Che l'80% non si dovrebbero ricandidare, oppure è una montezemolata, una esagerazione di Montezemolo? Ma Montezemolo fa bene a sostenere questa tesi, perché la missione di chi viene dalla società civile deve essere quella di svecchiare la politica, di cambiarla, di rinnovarla. Poi gli eletti... Ma lei si sente nel 20 o nell'80? Le sembro vecchio. Beh, puoi immaginare, Bocchino, quanto sia popolare la sua posizione, che basta avere i voti per essere rieletti, per esempio personaggi come Pisanu, per carità, persone rispettabili che dal 72, e dico dal 72, sono in Parlamento. Forse la mia sarà una posizione populista, lei la interpreterà come tale, però dal 72 lei dice basta, scusi, che abbiano i voti. Ci sono un sacco se un conduttore all'audience ha diritto a fare la trasmissione, ma non è la stessa cosa. Se un politico ha i voti, ma perché non ha stessa cosa? Perché a noi ci paga il privato. Chi? Parenzo non sa forse che con un bene pubblico sta andando in onda. Ma che ci chiama Etere. Vabbè, che ma non c'entra, è così. Etere. Ci paga Squinzi, che salutiamo. Grazie, signor Squinzi. Il signor Squinzi ci paga. Ha detto delle cose importanti oggi. No, vabbè, adesso lascia. Non fare il lecchino. Pubblicità. Scusi un attimo, però. Cioè, se uno deve seguire sempre il criterio dei voti, nessuno si ritirerebbe mai dalla politica. Anche Blair, quando è andato via giovane, probabilmente se si candidava in un collegio i voti li prendeva. Ma questo... ma no, ha perso. Ma che c'entra? Ma ha perso le elezioni. Ma se uno vuole rimanere Obama in Parlamento, perderà le elezioni. Uno perde e va a casa. Ho capito, appunto. Cioè, Pisanu avrà pure perso qualche volta col PDL le elezioni, no? Eppure non è andato a casa. Ma che no, vuol col dire? PDL, se uno viene eletto, comunque ci vuole il ricambio. Però ho capito, lei sta non sostenendo che Pisanu è legittimato. Non ne fate una cosa demagogica. L'Italia ha bisogno di buona politica. C'è ancora bisogno di Pisanu l'Italia, secondo lei? Mi L'Italia dica la verità. Ha bisogno di buona politica, sì, ma non di cacciare tizio per mettere caio. Resti su Pisanu. Ma lei mi vuol far dire delle cose. Le voglio far dire che se l'Italia ha ancora bisogno di Pisanu. Ma perché secondo lei l'Italia ha ancora bisogno di chi? Che ne so, di Sabelli Fioretti. Ma che c'entra Sabelli Fioretti un giorno da pecora? Li salutiamo, gli amici di un giorno da pecora. Sono amici miei. Lei pure dice che devono rottamare Sabelli Fioretti. Ma io non ho mai detto, io non ho mai sostenuta questa cosa. Scusi, e allora Bocchino, Sabelli Fioretti è più vecchio di Pisanu. Ma chi se ne frega adesso, non di Sabelli Fioretti, di questa questione qui. Io le chiedo una cosa: signor Pisanu, è indispensabile all'Italia ancora, sì o no, secondo lei? Decidano gli italiani. Lei è veramente è diventato di una democristianità che fa spavento. Ma perché sarà nella lista con loro, dai, Pisanu. Ah, lo vorrebbe nella sua lista, Pisanu? È probabile. Dove va a finire Pisanu, secondo te? Oh, benissimo. Allora, cos'è? Le farebbe piacere che Pisanu entri nella sua lista? Pisanu credo che possa tranquillamente far parte di molte coalizioni, essendo una persona... Buono per tutte le stagioni. Io la vedo in difficoltà su Pisanu perché capisco... Rappresenta la storia dei moderati italiani, e c'è un'anima moderata in tutte le coalizioni. Oh, no, nella vostra... Lei lo vorrebbe nella vostra coalizione, la lista per l'Italia, eccetera, eccetera, sì e o perché no? Perché no? Oh, benissimo. Dunque, ancora ha qualcosa da spendere in politica, Pisanu? Ma anche Cruciani vorrei in lista con me. Oddio, non la metta su Cruciani. Lo dica chiaramente. Faccia la persona impopolare fino in fondo su questa cosa qui di Pisanu. Pisanu è ancora una risorsa per il paese, lo dica se lo pensa. Ma non è mica un uomo, lo presenti come detto uomo dell'Andrangheta. Pisanu, una bravissima persona. Pisanu ha il diritto di candidarsi alle elezioni e se prende i voti di essere vada eletto. Più dovete là. Rispettare le regole della democrazia. Vada più là e dica, è ancora una deve risorsa. Deve rispettare, Cruciani, deve imparare a rispettare le regole della democrazia. Ma lasci perdere questa cosa, su, se uno non lo vuole candidare non lo candida, al di là dei voti, su. Non trascina le folle, mi sembra, no? Ancora qualcosa, lei l'ha detto, ancora Pisanu, qualcosa da ancora dare. Ancora qualcosa da dare. Cioè, lo vorrei con me, lo vorrei accanto a me, voglio fare campagna elettorale con Pisanu. Adesso è impossibile questo. Scusi, lei se la sentirebbe di fare campagna elettorale con Pisanu? Se sarà nella mia lista farò con piacere la campagna elettorale insieme con Pisano. Cioè è compatibile con quel progetto. Ma sta scherzando, è come no, un, progetto che, un progetto che non vuole le estreme. Poi Pisano è un uomo di esperienza, ha fatto il ministro degli interni ci vuole, in maniera insomma, ci vuole molto molto qualificata. Beh. Bocchino è con Pisano, abbiamo capito. 800 24 00, no, è con Pisano, ma non è un problema, cioè, basta dirlo esplicitamente. Uno che è in Parlamento dal 72 va benissimo. Partiamo alle cose serie, signor Bocchino. Scusi un attimo, ma si può dire che lei è fidanzato ufficialmente? Ah, ecco, questo sia il punto. Ma più o meno come lei. No. Io lo sapevo, la lotta, io mi sono preso. Perché con chi mi è sono fidanzato, signor Cruciani? Io mi sono preparato. Non faccio domande selvagge. Non faccio il paravento. L'uomo pubblico è lei, il politico è lei. Lei è fidanzato ufficialmente, sì io o no? Io non entro in questa vostra querella. Pronto? Sono nelle stesse condizioni. Ma io non c'entro nulla. Sentimentali perché... di Cruciani. No, però... non lo può sapere in che condizioni sentimentali sono io. Sono piacevolmente in compagnia. Oh, ma non piacevolmente in compagnia è un passaggio di che tipo rispetto alla al fidanzamento ufficiale? Cioè ancora non c'è. Il fidanzamento ufficiale è una cosa ottocentesca. Cruciani, si svegli, siamo nel 2012. Ma sì, cioè, nel senso, e anche nell'ultimo trimestre del 2012. Quando lei va in giro, la presenta questa come la mia fidanzata. Ragazza, come certo. La sua fidanzata. E come vuoi che la presenti? Come la domestica? E come la presenti? Ma che tu un'amica, può essere un'amica. Uno può presentarla come un'amica. Ma mi faccia il piacere. Scusi, ma 20 anni di differenza è una cosa bella, no? Cioè, può essere un rapporto, può essere anche bello con 20 anni di differenza, o sbaglio? Io non ho mai provato questa cosa qua con 20 anni di differenza dal punto di vista così sentimentale. Sto parlando. Mi rendo conto che mi rendo conto che non tutti che nel, possono. Nel suo caso, mi rendo conto che nel suo caso il mercato si restringa. Però che battaglia. Quello che le volevo dire è che, sai, voglio dire, il problema non è non è l'anagrafe, come si suol dire. E che cos'è? Il problema è la maturità delle persone. Cioè è lei che si sente più giovane o la signora Benelli che è più grande, no? Beh, molto matura, diciamo, per le esperienze di vita. È molto matura. Ma tu sai eh? Che è una musicista di fama internazionale. No, ma infatti io stavo scherzando, ma in realtà cioè, non c'è nulla di cui scherzare. Ma in verità c'era la foto sul Corriere.it qualche giorno cioè, fa. Cioè lei si può dire che con lei finalmente, dopo varie traversie, dopo avventure di vario tipo, che noi per carità non vogliamo documentare, finalmente ho trovato una stabilità, si può dire? Finalmente ho trovato una stabilità, Cruciani, una stabilità che le auguro di trovare presto. Oh, questo è interessante perché anch'io ho bisogno di stabilità. Perché tu infatti non hai trovato. Ma che ne sicuro. Sai che non ho si trovato? Si capisce dal tono aggressivo. No, prima mi ha detto Parenzo delle cose e mi fanno capire che non l'ha trovata ancora. Che cosa hai raccontato? Scusa, Parenzo. No, perché non so niente, non mi occupo delle vostre cose di letto e di lenzuola. Ma no, ma che c'è in questo caso? Delle tue porcherie. Allora, però, torniamo a due questioni politiche ufficiali. Berlusconi, Fini ha detto che è un corruttore. Anche lei conferma è un corruttore? Guardi. Si può utilizzare questa cosa? Berlusconi è un corruttore? Io condivido sempre quello che dice Fini. Sempre, anche su questo punto. Anche su questo punto. Ma lo sa che lei è un'icona gay? È un'icona comunque, gay come me? Sono in attesa. È un'icona sta gay sudando. Lei. Guarda, ora suda, guardi, eh? Sto sudando non perché sono un'icona gay, ma perché ha detto come me. Mi preoccupa questo me l'ha detto la concia, che te devo dire io? Mi preoccupa questo accostamento a lei. Lo so. Allora, non si offenda, non sono da buttare via. So di essere un'icona gay, nel senso che me l'hanno detto alcuni gay che conosco io, conosce anche lei. Sì. Avete dei gay in comune? Sì, abbiamo dei gay in comune. Me l'hanno detto, mi hanno detto questa cosa. E... Ma le fa piacere, sì. E perché no, scusi? Le fa piacere essere un'unica. Magari la votano anche i gay. So, no, che, che per lei è importante raccattare qualsiasi voto in questo momento. A parte l'aspetto del consenso, un politico vive di consenso, quindi se ha consenso dal mondo gay, certo, non può che fare piacere. Poi io sono uno, voglio dire, molto di mentalità aperta, sono molto sensibile ai diritti civili della comunità omosessuale. Lo vedrebbe un gay come leader di Futura Libertà, un omosessuale? Ma guardi, ci potrebbe essere, sì. Ma si figuri se c'è un problema, qual è l'orientamento sessuale di uno. Potrebbe diventare leader di Futura Libertà un omosessuale, non ci sarebbe niente di strano. Ma guardi, può diventare leader di qualsiasi cosa un omosessuale. Ma ce ne sono in Futura Libertà di persone così che hanno... Le risulta? Ma guardi, non lo so, io non sono un grande esperto come... Di questo settore, Come è noto. Cioè, lo statuto però voglio dire... Lo statuto non lo esclude. Ma di nessun partito... Qual è la differenza che c'è tra lei e Berlusconi? Sulle donne, dal punto di vista delle donne, qual è la differenza tra lei e Berlusconi? Di atteggiamento, così, la quantità. La quantità? No. No, forse lei non le canta. Il denaro? No, vabbè, guardi, allora, credo che ci sia una differenza, diciamo, cioè, tu, fondamentale. A entrambi piace la gnocca, su, diciamo rapporto, la verità, a entrambi piace molto. Guardi, lei minimizza, io sono un buttafuochiano in questo, cioè? Il libro di buttafuoco, Femmine, ha spiegato tutto. Le donne, cioè, lei ama le femmine? Ama Le donne sono esseri superiori. E quindi non possono essere, diciamo, ridotte trattate come ridotte, come le ha ridotte Berlusconi nella sua vita. Addirittura. Cioè, come le ha ridotte? Cioè, lei non le vede o a ballare vestite da poliziotta, da infermiera, o andare a fare scena muta in Parlamento per prendere uno stipendio. Come dei soprammobili, insomma. O come dei soprammobili. Non è una bella scena. Ma quanto però possono rovinare nella vita di un politico le donne? Quanto possono essere una rovina? Beh, molto. Anche per lei, Molto, per tutti. No, credo che per tutti nella vita possa essere... Questo non c'è dubbio. Possa essere una rovina. Ma per lei lo sono stato? Essere una rovina? No, per me... Una rovina, una mezza rovina. L'errore è la frequentazione di Cruciani e Parenzo, basta. L'unico errore serio della mia vita. Ma al Albertini l'appoggerebbe? Devo chiudere. Albertini l'appoggerebbe in Lombardia? Sei un candidato civico, sì. Sei ma il che vuol dire PDL, candidato? No. Come se non è candidato al PDL? Quello del PDL non è che può... Ho capito, se lui viene candidato, se Berlusconi e Alfani dicono il nostro candidato è Albertini, a noi non ci interessa, se lo tengano il PDL e la Lega. Perché è marchiato a vita come PDL? No, perché non ci interessa fare il candidato del PDL e della Lega, non ci interessa. Ma lei vorrebbe che Berlusconi scomparisse, questo è il punto, non può scomparire all'improvviso. Assolutamente Berlusconi. No. E che dovrebbe fare? Io vorrei che Albertini dicesse, io ho fatto un'esperienza di buon governo della città, sì. Sono una persona stimata al di là del mio partito, e quindi metto a disposizione di una coalizione. Ho capito, ma poi alla fine l'appoggeranno Berlusconi e questi. Ma no? Che alla fine l'appoggiano, ben vengano, il problema è che non può essere il candidato. Vabbè, ma è una questione di forma, loro. Su. No, è una questione di sostanza, perché ad esempio se c'è la Lega alleata non ci interessa. Ah, con la Lega alleata nulla. No, mai con la Lega. No, non è mai alleati con la Lega. Cioè, voglio dire, oggi in Lombardia, dopo quello che è successo, non ha senso riproporre la coalizione insieme con la Lega. Vabbè, mi saluti la signora, come si chiama la sua fidanzata? Vanessa. Signora Vanessa. Dovrebbe mettere però le musiche che suona, il violino suona, no? Sempre pianoforte. O il pianoforte. Sì. Pianoforte, pianoforte. Sempre pianoforte. Ma non è che si vuole sposare un'altra volta, no? Le regalerò. Ma guardi, io credo che il matrimonio è un errore che si fa una volta sola nella vita. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Eccoci qui, cari amici, 20:13, 800 24 00 24. T'ha picchiato, Bocchino, Parenzo? No, era sorridente, come al solito. Mauro da Brescia, buonasera. Smart. Mauro, diciamo. Mauro, signor Mauro. Noi americani. Buonasera. Vada. Buonasera, direttorissimo. Senta, una cosa, volevo comunicare al signor Bocchino che anch'io sono vice capo condominio in una palazzina di 3 appartamenti. Questo vabbè. Per dire che... Cioè lei dice che è un partito talmente piccolo che uno fa il vice di un partito che non esiste. Esatto. Vabbè, adesso un partito, adesso io ironizzo, ma lo prenda lei il 3%, il 2,5%, comunque non è semplice. No, per carità, con tutto rispetto, se altre ci arrivano. Quindi, gli ultimi sondaggi, credo, di Mentana davano Futura Libertà al 2,9, ma io non voglio difendere nessuno, vabbè, certamente. No, ma sicuramente, per carità, con tutto il rispetto anche dell'1%, sì. Però sembrava una cosa. E secondo me questo è una sua creazione, perché un personaggio di quel tipo lì, secondo me, se lei dietro il signor Bocchino, come ha creato Parenzo, ha creato probabilmente che il signor Bocchino, lei adesso è nel suo ufficio stampa, non lo so. Ma quando mai? Ma assolutamente ma sì, no. Ma lei è geniale, per creare un personaggio del genere ci vuole... Ma guardi che adesso la sottopongono all'attacco, che Bocchino la sottopongono all'attacco ora, stia sereno. Viene molto prima di me, viene molto prima di me. Sto parlando col direttorissimo. Non si preoccupi che adesso la sottopongono a un bel esame. Lei, non si preoccupi lei, che sembrava scomparso, poi invece all'improvviso riappare come la borsa, no? Che ti aspetti che scende e poi all'improvviso... Quando lei vedrà l'encefalogramma suo piatto, non si preoccupi, che è quell'unico neurone che da solo cerca compagnia, quindi lei non si spaventi. Perché la sua non la trova, perché non troverebbe neanche quello. Quindi comunque lei è in viva voce, Mauro, lei ha in viva voce, giusto? Bravo, errore madornale, questo non si deve mai fare, prende il telefono e ho capito, Mauro. Deve guidare, si ferma se vuole parlarci e oppure fa un'infrazione, commette un'infrazione e ci parla col telefono in mano mentre sbanda sull'autostrada. Anzi, andatelo a prendere, poliziotti, andatelo a prendere, multatelo. No, in questo momento è col via voce. Vilipendio a Parenzo, nuovo reato bisognerebbe introdurre, vilipendio a Parenzo. Scusi, la cosa migliore da fare, caro Mauro, l'insegnamento... l'insegnamento che voglio dare a tutti voi è quello di prendere il telefono in mano, fottervene della polizia stradale, mettere il telefono all'orecchio, sbandare sull'autostrada a 170 all'ora, intanto parlate con la zanzara e ci fate vivere un grande incidente live, naturalmente scherzo. Ecco, da lei l'accetto ed è simpaticissimo, va benissimo così. Va bene Mauro, grazie. Luigi da Bari, buonasera. Luigi. Buonasera. Vada. Mi avete annoiato con Bocchini, vabbè, questa è un'altra cosa. Vabbè, lei si è annoiato, io no, abbia pazienza. No, altri si sono divertiti, il mondo è vario e va bene così. Sì, signor Cruciani, sì, vabbè. Allora, senta, lei ripete sempre in continuazione, molte volte, lo sentite? Sì. Politica è sangue e merda. Io sono arrivato. Beh, questo lo disse Formica, non è che l'ho detto io. Vabbè, ma lo ripete anche lei. Lo e allora? Formica. Niente, io voglio dire che il sangue siamo noi, poveracci. Sì. E la merda è lei che continua a fare queste trasmissioni. Tutto qua. Ecco. D'accordo. Cioè lei mi ha dato della merda in sostanza. Lei mi ha dato della merda in sostanza. Lei rappresenta praticamente il potere. Il potere, sì. Il potere è la cosa peggiore che possa stare. Io ho il potere, ma io non conto assolutamente nulla, Luigi. Senta Cruciani, sì. Lei non deve dire che non conta. Lei non conta nulla effettivamente, ma facendo questo lavoro rappresenta il potere. Il potere. È al servizio del potere. E lei cosa vuole fare al potere, Luigi? No, le spiego. Lo vuole abbattere? Cosa vuole fare? No, io non voglio. Lei, il rivoluzionario di Bari, Luigi, cosa vuole fare? Potere abbatterlo, Cruciani, cosa vuole fare? Cruciani, mi faccia parlare per cortesia, stia calmo. Io sono calmissimo, è lei che si sta scaldando, dando della merda, dando della merda a destra e a manca. No, scusa, a parte che lo sto dando. Ma va bene, io me le piglio le sassate, non è un problema. Scusatemi, è il potere, quello che è il potere. Noi dobbiamo capire che cos'è il potere e cosa vuol dire amministrare. Vabbè, Luigi, adesso la questione si fa complicata. Lei ha detto la politica è il sangue, i cittadini, la merda, sono persone come lei. Noi siamo il sangue. Vabbè, lei è come i politici, non si preoccupi, guardi. Eh? E lei è come i politici, non si preoccupi. Per guardi. Quale motivo? Come né più né meno, perché i politici rappresentano la società. Cioè... No, assolutamente no, non è così. Ma è così. Lei è come i politici, non si preoccupi. No, guardi, lei sta dicendo... Lei è esattamente come i politici. Sta dicendo una castroneria, perché... Ma quale castroneria? Sai cosa le dico io? A questo punto è inutile anche andare a votare. L'unica soluzione, può sembrare una cretinata, e la voglio dire, è a fare amministrare come si amministra il mio condominio, a rotazione. E nessuno ruba, il condominio mio funziona e andiamo a rotazione. Le amministrazioni andiamo a rotazione. Ogni anno cambiamo il capo. Chiami tu, Parenzo? Ho già mandato un messaggino dal cellulare, stanno arrivando. Eccoci qui, andiamo Massi, provincia di Bergamo, buonasera. Buonasera Cruciani. Sì. Ho ascoltato l'ultimo pezzetto di quella persona di prima, non so chi fosse, perché ero appena rientrato in casa. Sinceramente volevo sgridarla, ma mi è passata la voglia perché mi è passata la voglia perché quello l'ha già detto peggio di Bertoldo, quindi no, era solo per dire che magari la gente quando chiama meriterebbe un attimino più di considerazione, ecco, perché tu li mandi sempre a quel paese. Ma io infatti la sto considerando moltissimo, Massimo. No, sto solo dicendo questo. Cioè, ma io la sto considerando moltissimo. Se la canta e se la suona per conto suo, no, sta prendendo in giro ovviamente, credo. Allora? No, dicevo questo, se continuamente le persone che intervengono, chiamano, vengono... Sì. Rimandate al mittente con tanti saluti. Ma scusi, ma io la sto rimandando al mittente, la sto insultando, sto dicendo qualcosa. Però, e allora succede ogni tanto, come succede nella vita, di essere presi a pesci in faccia. Le pietre me le prendo io, le pietre se le prende lei. Un attimo solo. Ah, questo è cosa? No, sto chiamando Pinuccio. Pronto? Come Pinuccio? Ehi, amici, compagni. Come stai? Come stai? Bene, ma mi disturbate sempre nei momenti... Che stai facendo adesso? Non posso parlare in questo momento. Guarda, non puoi parlare? No, sto al telefono con Massimo D'Alema. Con D'Alema? Sì, se potete rimanere un attimo in linea... rimaniamo in linea, avanti, rimaniamo in linea. Rimanete lì, sto all'altra linea. Sì, vai. Figurati, fai con comodo. Massimo, allora, ti ho detto... Bersani ha detto che... sì, il partito lo deve volere. Va bene. Ma non ha detto quale partito! Hai capito? Mo facciamo una bella petizione col PDL. Ti canti col PDL, chi lo deve sapere? Ti togli i baffi, ti fai biondo? Ti ricordi come Nino Manfredi, come al film? E fai il volto nuovo del PDL. Quelli ti candidano. Massimo, se non a me che quelli ti candidano che sono fregati. Dai, me la vedo io. Male, se non trovi lavoro, al rimessaggio dei pedalo dell'amico mio, ti faccio andare a lavorare. 700-800 euro al mese. Ma come? Ti ho mandato già Beltrone. Sta parlando con lei. Sta già là. Sì, sì, che ha trattato il catrame da sotto alle barche. Sì. Beh, mi raccomando, io adesso nel condominio faccio firmare a tutti. D'Alema candidato per il PDL. Qua spacchiamo, Massimo. È la volta buona che diventi nuovo presidente del Consiglio. Beh, stai su. Tante cose e ti ho mandato le spigole. Mi raccomando, ma mangio le alzale. Le spigole. Ciao, bello, ciao. Ma parla così. Raga, scusate, ma qua. Scusa, Pinuccio, io voglio capire una cosa, ma davvero c'è quest'idea di candidare D'Alema col PDL? Gliela stai consigliando tu? Il partito lo vuole, ma non ha detto quale partito. Al PDL, appena ho saputo la notizia, sì. Ma come ti è sembrato? Che voce aveva? Era un po' abbattuto? Era un po' abbattuto, perché adesso mantenendo i suoi ritmi di vita, senza quello stipendio, è un lavoratore, c'è la crisi anche per lui. E adesso vediamo, siccome Berlusconi ha appena saputo la notizia, si è messo subito. Ride, lo vede bene, devo dire. Beh, tra i due nel passato c'è stata anche una... La bicamerale famosa. Vabbè, ma insomma, Pinuccio, tu veramente, poi ogni volta che ti chiamiamo, Parenzo, ogni volta che ti chiamiamo, o stai facendo delle trame come faccendiere, oppure sei sempre a telefono con qualcuno. Ma poi con tutti, una volta D'Alema, una volta uno... Ma che voce aveva, una voce rotta. Perché faccio affari con loro, voi vi ricordate la missione Arcobaleno, fu quello il mio contatto con Massimo, il primo contatto. La missione Arcobaleno, sì, la missione Arcobaleno. Sì, a Bari, però facciamo affari insieme. Vabbè, ma questa storia del pedalò qual è? Cioè, l'alternativa che gli hai proposto, mi sembra una cosa... Che è un rimessaggio, d'inverno lui prende tutti i pedalò della costa pugliese e li custodisce. Sì. Ma ho mandato già Beltroni che sta togliendo il catrame da sotto i pedalò, no? Che questi si incastrano sugli scogli. Gli serviva un altro, male, manda Massimo, credo di 700 euro al mese a nero, chi li deve dare oggi? No, beh, non c'è dubbio. Va bene, Pinuccio, a presto, presto. Mai una volta che ti fai trovare che non sei al telefono. Tranquillo, libero. È con noi, mitico, intramontabile, è stato protagonista di una grande puntata della Zanzara. Ad aprile sono passati 6 mesi, forse di più, il mitico, il cognato di Di Pietro, l'onorevole Gabriele Scimadoro, buonasera. Ciao Crucianica, saluti a tutti. Come va? Ciao, come va? Voi mi avete già bidonato 2 o 3 volte perché dite che chiamate e poi rimandate. No, lei ha ragione, solo che in questi siamo come Pinuccio, siamo berati da... Ma Pinuccio chi è? Non lo conosco. Ma è un faccendiere là della Puglia, amico di tutti, amico di Vendola. Amico nostro? No, amico nostro, amico anche dei potenti. Amico non è vostro, mica... io non lo conosco. No, lei non lo conosce, infatti lo conosciamo noi, assolutamente. Scusi, ma Di Pietro, per questa storia del signor Maruccio, no? Lo conosce il signor Maruccio, no? Quello che sta facendo questo casino. Che persona è? Una brava persona sto Maruccio? Cioè, gliel'ha data lei una mano per fare il coordinatore laziale? Io consigliato di... Aspetti, Cimadoro, non la sentiamo, dove si è messo? Vabbè che... Scusi un attimo, Cimadoro, la sentiamo male, adesso la richiamiamo. Caterina da Monza, 80... non è colpa nostra stavolta. Caterina da Monza, 800-24-0024. Caterina. Sì, salve. Dunque, solo 2 cose. La prima, mi sono leggermente sentita un leggero senso di nausea a sentir parlare Bocchino. Davvero, io già non mi sta molto simpatico. Allora, mi è sembrato eccessivamente attaccato al denaro. Allora, lui adesso non so cosa stia facendo, non so quale lavoro stia facendo in questo momento, perché comunque non penso che abbiano chissà che cosa, per cui prendo uno stipendio. Parla di fare causa a destra, ma anche a sinistra, ma no, io le faccio civili perché così prendo tanti soldi. Cioè, mi sembra una persona veramente abbastanza un po' un parassita. No, e un po' ha detto che la fa civile perché non vuole mandare la gente in galera, quindi dice se uno scrive una stronzata io lo porto in tribunale. Questo ha detto. In questo periodo dove stanno rubando a destra manca, che è la stessa cosa che faccio io, intelligenti, e mi convinco sempre di più che non lo sono, i soldi non li nominerebbero, sarebbero zitti. Anche perché fare causa a destra e a sinistra, comunque lui l'avvocato non se lo paga perché glielo paga il partito, questo è poco ma sicuro. Questo non lo sappiamo. Secondo, occupa uno spazio per le cause, per tutto quello che è, e comunque sono ancora soldi che paghiamo noi, perché la giustizia, i soldi li diamo noi alla giustizia, e questo mi ha veramente infastidito e nauseato. Va bene, grazie Caterina. Grazie. Abbiamo ripristinato il collegamento con Gabriele Scimadoro. Allora, il signor Maruccio, che è accusato di peculato e altre cose, eccetera, dice l'avvocato che lei, Maruccio. L'avvocato Maruccio, lo conosce bene, l'ha addirittura suggerito lei? Io penso che sia un ragazzo sveglio, uno che si dà da fare, sì. Aveva la possibilità e la voglia di fare il responsabile regionale e anch'io ho sponsorizzato la sua candidatura. Ma è una brava persona secondo lei? Secondo me sì. Cioè lo accusano ingiustamente? Non lo so se lo accusano ingiustamente, io spero che lui abbia la possibilità di dimostrare poi nei fatti e con i documenti che tutto quello che gli è piovuto addosso non sia vero. Ma lei ci crede allora alla sua innocenza? Crede alla sua innocenza perché lo conosce, avendolo sponsorizzato, pensa che sia una brava persona, onesto? Se no non l'avrei fatto. Onesto dunque, le sembra una persona onesta? Cioè è inverosimile quello che sembra? In genere, in genere tutti quelli che prendiamo in Italia dei Valori presumiamo e diamo per scontato che siano dal principio quello persone tutti, oneste. Credo. Se no non verrebbero da noi, perché noi chiediamo anche alcuni certificati nel caso specifico. Però lei, a quello che legge sui giornali, che lui si sia preso dei soldi per farsi gli affari propri, ci crede o no? Non ci credo. Non ci crede, eh? No, non ci crede. Dunque lei l'ha conosciuto bene, evidentemente. Lo conosco bene, sicuramente. Non ho avuto modo di sentirlo in questi giorni, ma solo per non distrarlo dal lavoro, spero che sta preparando per cercare per dimostrare. Sì. Dunque non dovrebbe essere cacciato dall'Italia dei Valori, mi sembra. Cioè, ma intanto è stato sospeso, per cui si è anche dimesso dalla carica. Sì, sì. Ma è giusto, giusto, per esempio, dimettersi dal consiglio regionale, da consigliere regionale, secondo lei? Oppure è esagerato? Cioè Di Pietro gli ha chiesto troppo. Se le accuse sono queste e sembrano pesanti, evidentemente la richiesta che ha fatto il nostro presidente è corretta. Sì. Perché a questo punto devi dimostrare, lui dovrà dimostrare il contrario. Sì. A fronte di queste accuse specifiche gravissime. Di appropriazione indebita di denaro pubblico. Di solito è il contrario, uno deve dimostrare, sono gli altri che devono. Vediamo la situazione è tutta da chiarire. Io spero e sono certo che lui riuscirà a chiarire. Dunque non crede nemmeno al fatto, c'è un giro di denaro che un po' è. Io credo che il giro di denaro ci sia in tutti i consigli regionali. Guardi, io una battaglia che sto facendo da anni contro i consigli regionali e i gruppi. E tutti i miei colleghi di partito all'interno del nostro esecutivo sanno che io intervengo e sono intervenuto negli anni quasi solo ed esclusivamente contro i gruppi regionali, allora, per l'autonomia economica di soldi che hanno a disposizione. Allora, tutti, Cimadoro, un attimo solo, si è aperta una questione dell'Italia dei Valori che riguarda Franco Barbato, perché per esempio Massimo Donati questa sera dice in maniera aperta, chiara, fai risentire l'audio, o io o Barbato. Cioè, o viene cacciato, viene emarginato dal gruppo. Sono d'accordo con Massimo Donati. Facciamo risentire quello che ha detto sui campi di concentramento. Se questo ha detto Donati. Sì, no, ma io lo dico, io lo riferisco a un'agenzia, l'agenzia ANSA, non è che me l'invento io. Non è che... Bene, se c'è un'agenzia ANSA. Donati a Barbato, via dal gruppo, mi dimetto. Un attimo solo, risentiamo Barbato di oggi. Formigone vuole ritornare in campo? Allora, i vari formigoni scopelliti io li farei ritornare in campo, ma in un campo di concentramento. Una volta Francesco Barbato disse, caro Cimadoro, siamo in collegamento con Gabriele Cimadoro dell'Italia dei Valori, parente di Antonio Di Pietro, ma Donati e Cimadoro che già azzeccano con noi? Così il disse problema bisogna rivoltarla la domanda, che ci azzecca lui con noi, e quello è il problema. Perché che ci azzecca con voi? Come lo considera? Dei Valori, no? Cioè, vi imbarazza? Lei imbarazza, io non ho grandi rapporti con Barbato. Francesco Barbato. Ma le fa schifo, avevo proprio chiesto già 2 anni fa l'espulsione dal gruppo. So che non è iscritto al partito, per cui non so neanche cosa ci faccia nel partito o rappresentare il partito in alcune trasmissioni. Perché se lo tiene Di Pietro? Non credo che Di Pietro se lo tenga forzatamente, è stato eletto nell'Italia dei Valori. Cioè fa un calcolo Di Pietro perché è popolare? Non credo cosa che faccia calcoli, è stato eletto come parlamentare nell'Italia dei Valori, uno pensa che faccia parte integrante dell'Italia dei Valori e rispetti anche, diciamo così, le direttive o comunque... Cioè lei sta dicendo che non è dell'Italia dei Valori, quando va in televisione non rappresenta l'Italia dei Valori? Non rappresenta perché non è iscritto, non si è iscritto. Cioè rappresenta solo se stesso, lei vuole credo dire? Credo proprio di sì, i suoi atteggiamenti poi lo ho capito, però dovrebbe essere sconfessato apertamente. Dica Di Pietro, lei che è parente di Di Pietro. Non è che ogni volta possiamo correre dietro a sconfessare Barbato ogni dichiarazione, se no saremmo impegnati 24 ore su 24. Però scusi un attimo, la questione è seria, perché Barbato è uno di quelli che viene spesso intervistato dai talk show. Allora, Insomma, a voi interessa uno come Barbato? Ma c'è scritto IDV, trasmissione, certo. La gente lo guarda. Però c'è scritto IDV sotto, Cimadoro. E c'è scritto... è quello da rettificare. Da rettificare è quello che mettete voi nelle televisioni. No, nelle noi radio. Non c'entriamo niente. Beh, ho capito. Se lo presentate come responsabile, come partito, noi lo è stato eletto con l'IDV. Scusi, però, mica con il movimento Bubù. Mi dica una cosa, ci vorrebbe una parola chiara di Di Pietro su questo, perché non è chiaro l'atteggiamento di Di Pietro. Cioè, io credo che la dichiarazione fatta da Massimo Donati poi alla fine chiarirà tutto. Cioè alla fine sarà espulso secondo lei? Io credo proprio di sì, che Massimo Donati non è uno qualsiasi del gruppo, è il capogruppo. E credo che ci sia all'interno del gruppo diffusa questa opinione. Ma lei come lo considera? L'esame di tutti gli altri parlamentari. Sì. Ma credo che se farà una proposta di questo tipo Donati, qualcuno la accoglierà. Cioè, se uno dice o Donati o Barbato, alla fine si sceglie... Non si pone neanche la questione o Donati o Barbato. Non si pone neanche la questione o uno o l'altro. Una volta ha detto Barbato e Scilipoti, non so chi è peggio, lei disse. Beh, insomma, sì, la differenza è minima. È minima. Forse è addirittura facile, peggio Barbato, per certi aspetti, facile, o no? Sì. Ma io credo di non avere rapporti con Barbato, per cui è inutile che facciate domande a me. Cioè, ha più rapporti con Scilipoti che con Barbato? Ma Scilipoti quando passa, a questo punto, siccome mi passa davanti, sono in prima fila in Parlamento, lo saluto. Quando passa Barbato, no. Questo già significativo. Questo è, ti spiega. Beh, certo. Scusi un attimo una cosa, però voglio dire, insisto su questo, perché Di Pietro non dice apertamente, cioè glielo dica lei, glielo suggerisca lei che è parente. Lo suggerirò, ma io credo che lo farà, credo che lo farà, perché una presa di posizione così forte da parte del capogruppo evidentemente ha bisogno di una risposta. Allora Barbato intanto twitta, la dichiarazione è da qualche minuto, questa dichiarazione di Massimo Donati, ecco, Barbato ha twittato alla Zanzara parlano di me, e caro Barbato parliamo di lei perché ci sono nel partito delle cose pazzesche oggi, caro Barbato, chiami pure, ma lui è contento se parliamo di lui, chiami combatta con noi, come si fa a dire campi di concentramento, su Barbato, poi io lo so che lei scherza molte volte su questo, le spalle grosse, scherza troppo, comunque va cacciato dal partito, questo mi pare chiaro, Cimadoro, secondo lei? Non ho nessun dubbio. Nessun dubbio. Non è, dal partito no, dal gruppo, perché dal partito non è iscritto. Ah, non è iscritto, dal gruppo va cacciato subito, va cacciato. Non gli stringerebbe neanche la mano, zero. Ma per la verità io l'avevo già chiesto anni e mesi prima. Metaforicamente gli sputerebbe in faccia, metaforicamente parlando. Metaforicamente io non arrivo a tanto, insomma. Metaforicamente. Ho poca saliva per me, per cui me la tengo per quella che mi serve. Una volta, dice, non spreco, una volta l'ha definita. Non riuscite a sputanarmi, è impossibile. Perché no, ha detto non spreco la saliva per Barbato. L'abbiamo già fatto, se è per questo. Su quella questione lì potremmo anche ritornare un'altra volta. No, potremmo perché abbiamo già dato. Io ho le idee più chiare di voi e più corrette. Sugli omosessuali abbiamo già dato. Ma guardi che lei ha detto quello che pensava sugli omosessuali. Non c'è niente di strano. Correttamente, sì. Sì, ma lei ha detto quello che pensava, è tanto di cappello. Se uno dice. No, ma ero intervenuto, volevo intervenire a suo tempo, non mi ricordo più l'ultima trasmissione. Poi voi tagliate, fate brigate, ma fate 2000 titoli di pubblicità più di Mediaset. Ma quando per cui per fortuna abbiamo tanta pubblicità. Voi bisogna perdere anche mezz'ora a volte, perché fate 10 minuti di pubblicità e lo con questo fate concorrenza a Berlusconi. Abbiamo molta pubblicità, però era la vicenda di che? Dei parlamentari, di cosa? No, non mi ricordo, c'era un tema che stavate discutendo. Beh, se non se lo ricorda lei. Come va la stagione di caccia, Cimadoro? Bene, guardi, sai quante giornate di caccia abbiamo fatto noi in Val Brembana? È già chiusa, che lo dica gli anticaccia. 2 giornate di caccia. Poche? Questo è il nostro calendario in Alta Valle Brembana. Poche. È già chiusa, sì. 2 giorni di caccia per 365 giorni. Poche, molto poche. Terribile. Ce ne vorrebbero di più, dice lei. Noi rispettiamo i calendari e la selvaggina, però, per cui questo era dato e dovevamo fare certi capi e quelli erano, per cui sono stati fatti e è stata chiusa. Quanti capi ha fatto lei? Nessuno. Nessuno? No? È una pippa tremenda. Purtroppo sì, capita. Scusi Cimadoro, però io voglio dire una cosa, 2 giorni non sono pochi per un cacciatore, com'è possibile? Cioè, 2 giorni, l'anno scorso deprimono, anni fa neanche uno. Deprimono un'attività. Cioè, rispetto, costringono la gente ad andare all'estero a sparare, in Serbia, da altre parti, o sbaglio? Arricchiscono altri paesi. Questo succede, sì, succede. È vero, è che ci sono le regole anche là. Adesso la normativa europea oramai si è allargata. Però voglio dire, è vero che in Italia i cacciatori sono maltrattati dalle norme, diciamo. Beh, sono troppo restrittive, troppo restrittive. Assolutamente restrittive, e credo sia il calendario venatorio più restrittivo del mondo. Cioè, praticamente perdiamo un sacco di soldi perché potremmo diventare la patria dei cacciatori, invece... No, noi lo siamo già, perché siamo quasi 1 milione di cacciatori in Italia. Però sono costretti a emigrare, dice lei. Sono costretti a emigrare perché qui non è possibile, ci sono troppe... Ma la colpa di chi è? Degli animalisti? La colpa è anche nostra, della protezione uccelli, dei legislatori, perché della Brambilla, di chi è? Della Brambilla. La Brambilla fa la sua parte, noi facciamo la nostra. Per andare a caccia adesso dovremmo andare in giro col codice civile, col codice penale. Per cui troppe norme, con un avvocato al seguito. Sì. Troppe norme a protezione degli uccelli. Troppe norme e troppe tasse, perché le ricordo che noi contribuiamo per 230 milioni di euro di tasse. Hai capito? Sì, Parenzo. Queste sono cose da considerare, la questione, perché deprimono, lui è un cacciatore, ma deprimono un'attività, potrebbe essere una fonte anche di guadagno. In molti paesi più civili del nostro è una fonte di guadagno, la Scozia, l'Inghilterra, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, faccio in Germania. Cioè sono molto più civili. Dove esistono cacce controllate, di selezione anche negli stessi parchi, con gli soldi che si possono finanziare iniziative all'interno dei parchi, cosa che in Italia non succede. Succede in tutto il mondo più civile rispetto al nostro e da noi no. Cioè siamo incivili perché in altri paesi... Non siamo incivili, non affrontiamo il problema, non vogliamo affrontarlo. O lo affrontiamo nel modo sbagliato. Cioè si proteggono troppo gli animali, diciamo la verità. Cioè, sono troppo gli uccelli troppo. Sono noi troppo siamo i primi a proteggere gli animali. Sì, ho capito. Perché senza animali non riusciamo a fare la nostra attività. Non c'è dubbio, però... siamo i primi a proteggerli. Sì, questo lo so. Io voglio vedere la Brambilla. Guardi, ha nevicato dalle mie parti questa settimana, l'altro giorno. Sì. Probabilmente noi da qui a qualche settimana avremo modo di portare da mangiare a quelle bestie che saranno su coperte dalla neve. Non credo che la Brambilla o gli amici della Brambilla verranno su con noi a portare fieno ad altro. Non credo. Dunque, cosa che noi facciamo regolarmente. È un animalista per finta, diciamo, no? La Brambilla. No, sono animalisti. Dopodiché, ideologici, ideologici. Non so se lo fanno per propaganda o per ideologia. Vabbè, comunque, abbiamo il traffico, torniamo subito, 800 24 00 24, ma con Barbato che facciamo? Ci parliamo, Parenzo? Cimadoro, che facciamo? Diamogli il diritto di parola. Tra l'altro ha appena detto, Donati è con un piede nel Partito Democratico, ha detto così, Barbato, volano gli stracci nell'Italia dei Valori, è già con un piede nel Partito Democratico, come lo chiamiamo al volo, va? Tra un attimo. Mio fratello fa il chirurgo, come mio padre, e mio padre come mio nonno prima di lui, e mio nonno ha seguito le orme del mio bisnonno, sì, anche lui chirurgo. Io invece ho scelto un'altra strada. Buongiorno. Buongiorno, chef. Buongiorno, chef. La strada giusta è quella meno battuta. Nuova BMW X1 con pacchetto Navi Connection. Navigatore satellitare BMW Business. Interfaccia Bluetooth, USB e Voice Control a 950 euro. Con un vantaggio cliente di 1250 euro. E un'offerta valida fino al 31 dicembre 2012. Strade in diretta. Buonasera, alle 20:46 minuti lungo la 3 Salerno-Reggio Calabria il traffico è rallentato per un incidente con mezzi pesanti coinvolti tra Santeria e Scilla in entrambi i sensi di marcia. Ricordiamo che sul tratto si viaggia a senso unico alternato per un cantiere. E segnaliamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domattina sarà chiusa la 21 tra l'Autosole e Piacenza Ovest verso Torino. La 15 della Cisa chiuderà invece dalle 22 alle 6 nel tratto Parma Ovest innesto 1 verso Parma. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento con le strade in diretta tra un'ora circa. Promo 24. Una notizia riservata ai commercialisti. La professione è in continua evoluzione, l'attività quotidiana è costantemente sotto pressione ed i clienti hanno sempre nuove esigenze. Lo studio non può continuare con vecchi strumenti software se vuole mantenere profittabilità, crescita ed elevati livelli di servizio. Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout, elimina la necessità di server, copie e aggiornamenti, riduce i costi, organizza lo studio in modo efficiente, permette di offrire ai clienti nuovi servizi collaborativi online, anche con tablet e smartphone. Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout. Per saperne di più, numero verde 800 41 42 43. La Zanzara. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Pronto? Sì? Sì, buonasera, cercavamo l'onorevole Cimadoro. Di nuovo la Zanzara? Beh sì, sì, certo. Sì, non sono stata chiara, io sono l'addetto stampa e ripeto, civiltà vorrebbe tra colleghi si rispettasse. Ma che dobbiamo rispettare, scusi? Vabbè, arrivederci. Cosa dobbiamo rispettare? Scusi, cosa? Ha parlato, ha detto 10 minuti, avete parlato. Ma cosa dobbiamo rispettare? Cerca di rispondere, cerchi innanzitutto di rispondere bene ai colleghi che la chiamano, per prima cosa. Ma perché si è arrabbiata? Ma che ne so, ha già parlato 10 minuti. Queste persone che dispongono delle persone, cioè dispongono dei deputati, ha già parlato 10 minuti. Ma no, ma non ho capito perché si è arrabbiata così. Ma che ne so, la detta stampa. Ma aveva una bella voce, però. Detta stampa. No, beh, come collega, collega giornalista. Ma sì, ma non mi interessa, colleghi, ma non mi interessa. La parola colleghi mi fa schifo. Cioè. Intanto, vabbè. Mi fa orrore. Posso darti colleghi. Una notizia tremenda? Qual è la notizia tremenda? Mi si è bloccata la password, non mi ricordo, la password del BlackBerry per aprirla. Ma ho capito, ma cosa come vuoi si fa? Da me? Ma perché? Cosa vuoi? Ci sono migliori di chiama Barbato al volo. Scusa, come Francesco da Catanzaro, ma... l'evasore di ieri. Che vuole ancora l'evasore di ieri? No, non farlo parlare. Vergogna. Francesco, vergogna. Sì, dica. Mi avete chiamato. Ma come ti abbiamo chiamato? Ma che sta dicendo? Ha chiamato lei. A parte che non è possibile che ha chiamato lei. Ha chiamato lei. Scusi, Francesco, ha chiamato lei? Sì, volevo rispondere. Ha chiamato da un altro telefono, tra l'altro. No, da un solito. Beh, c'è il filtro di un mese, allora non funziona un cazzo. Questo che vuole? Che vuole? Aspetti un attimo. No. Angelo da Bari è in collegamento, il mitico camionista. Che c'è, Angelo? Niente, buonasera, volevo dire due parole a Cima di Rapa, peccato che è andato via. Che voleva dire peccato. A Cima d'Oro? A Cima di Rapa volevo dire, sì. Evviva che esiste la gente come Barbato, perché lui e il cognato Tonino Azzeccagarbugli, loro meritano di essere cacciati a calci nel culo. Perché? Vedi come se la tira Cima di Rapa. Ma quanto sei grezzo. Ma quanto sei grezzo? Quanto sei grezzo? Aspetta, Angelo. Grezzo, Angelo, ma che Angelo? È un diavolo, non un angelo. Aspetta, che diavolo da Bari, che barbato questo. Aspetta, che volano gli stracci. Francesco, che è successo? Ma che hai fatto? Che hai fatto, Francesco? Pronto? Francesco, la zanzara. Se mi chiami sto in ufficio alla Camera lavorando, perché non ti sento col telefonino che vai e vieni. Beh, dimmi il numero. 06 67 60 sì? 9659. Ripeti un po'. Chiamiamo subito. 06 sì. 6760 sì. 9659 è il numero del mio ufficio alla Camera. Perfetto. Dove sto lavorando. Ti chiamiamo subito. Francesco, allora che vuoi? Angelo, scusa, che stavi dicendo, Angelo? Milioni italiani. Niente, volevo dire a Cima di Rapa che doveva essere cacciato lui e suo cognato Azzeccagarbugli. Loro hanno messo a razzi, a Scilipoti. Hai visto come lo difendeva l'altrone dell'avvocato? Sì, lo difendeva Maruccio, è vero, difendeva Maruccio prima, difendeva Maruccio. L'ho messo io, un ladrone. Quello, beh, il ladrone deve essere Barbato. Aspetta, Angelo, Barbato, che è successo? Deve essere uno di quei grossi, sai, abbuffini, mangia bracio le filette a tradimento. Angelo, fermo un attimo, Barbato. Sì? Francesco, che è successo? Ti vogliono cacciare? Chi è che mi vuole cacciare? Donati ti vuole cacciare dal partito, dal gruppo, diciamo. L'hai fatta grossa stavolta. E perché? Perché ho preso qualche finanziamento dal gruppo, ho utilizzato impropriamente i soldi del gruppo. Hai detto che Formigoni deve andare in un campo di concentramento, Formigoni e l'altro, là, come si chiama, quello della Calabria? Scopelliti, sì. No, piano, cioè non facciamo confusione nel senso... Vabbè, insomma, come rispondi a Donati innanzitutto? No, innanzitutto voglio chiarire quello che ho detto. Vabbè, ma non vorrei che si strumentalizzasse. Barbato, questo lo facciamo domani perché abbiamo poco tempo. No, scusami. Che domani? Cioè, tu vogliamo strumentalizzare il campo di concentramento. Io voglio concentrare. Beh, quello hai detto, campo di concentramento. Corrotti. E no, che vuoi concentrare? Dimmi. Allora, voglio concentrare tutti i corrotti, tutta la mala politica. Dove? E questi soggetti che stanno danneggiando gli italiani. Dove la vuoi concentrare? Occorre fare una concentrazione perché gli ma italiani concentrazione poco, che diranno, ma a che... calci nel sedere li cacceranno ma fuori. Che vuol dire una perciò concentrazione? Occorre una concentrazione, c'è di un carcere, un campo di concentramento occorre? No, occorre una concentrazione. Che vuol dire? Bisogna rinchiuderli. Chiamalo come vuoi, cioè non confondiamo una cosa con un'altra, perché il mio rispetto per gli ebrei e per quello che è successo hai parlato di campo di concentramento, però no, ascoltami, guarda, non abbiamo sentito l'audio. Però scusami, Barbato, abbiamo l'audio. Abbiamo l'audio. Ho elencato le ruberie delle ASL in Calabria. Vabbè, ma lascia perdere. Comunque, io penso che agli italiani interessa. Scusi, però Donati dice Barbato via dal gruppo dell'Italia dei Valori. Sei pronto ad andare al gruppo misto? Vattene tu, no, direttamente, vattene tu. da 4 anni, da 3 anni, ieri, oggi. Faccio quello che mi ha chiesto Italia dei Valori. Ma chi? Cioè, Di Pietro? Io sono chi? Stato eletto Di Pietro, come me e come tutti quelli di Italia dei Valori, fanno ogni giorno battaglie per la legalità. Ma hai sentito che ha detto Cimadoro? Hai sentito che ha detto Cimadoro prima? Guarda, io quello che dicono gli altri... Lo conosci Cimadoro o no? A me da un orecchio mi entra e un altro perché? Mi esce. Sai perché? Perché io ogni giorno... È parente di Di Pietro. È parente di Di Pietro, tra l'altro. Guarda, ma che c'entrano queste cose? Ma come lo consideri? Parente? Come lo consideri sto Cimadoro? Bravo? Ma guarda, io non considero nessuno perché a me interessa il lavoro che faccio. Oddio, io devo dar barba, conto dai, su, Francesco. Ogni giorno ti sto chiedendo come la consideri. Quello ti ha detto che devi essere cacciato, che non manco di salute, preferisce Scilipoti a te. A me tutta questo politichese non interessa. Non ti interessa. La mia politica vabbè è diversa. Hai parlato di campi di concentramento, oggi. Campi di hai concentramento. Detto una cosa abnorme, no, folle. Parlo di sanità rubata. Ma tu parli, hai parlato di campi di concentramento. Calabria, nel Lazio, dei Fiorini. Ci dobbiamo salutare. Hai parlato di campi di concentramento. Hai parlato di campi di concentramento per i politici corrotti, per Scopelliti che non è corrotto, peraltro, almeno non ufficialmente, non con sentenza definitiva, e anche per come si chiama l'altro, Formigoni. Formigoni. Allora, Formigoni, che sì, è al vertice di una cupola di delinquenti, di indagati. Ma che cupola di delinquenti? Ci dobbiamo salutare, a domani. Che a domani? Non la vuoi sentire questa roba? No, qui? Ma come non la voglio sentire? Come no? So che non abbiamo tempo, domani. Radio 24. La passione si sente.